potrebbe andare tutti allo zoo comunale, vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone, e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no? Potrebbe andare tutti quanti alla che primavera, vengo anch'io, no tu no, con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, e vengo anch'io, vengo anch'io, ma perché? Perché no? Potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale, vengo anch'io, no tu no, per vedere se la gente poi piange davvero e scoprire che invece battono anche le suore e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io, no tu no, e vengo anch'io, no, vengo anch'io, ma no. Perché? Perché no? Potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore, vengo anch'io, no tu no, dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano, un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore, e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no? Perché? Vengo anch'io, no tu no, e vengo anch'io, e vengo anch'io, ma perché? Vengo anch'io, vengo anch'io, vengo anch'io, ma perché? Vengo anch'io, vengo anch'io, vengo anch'io, ma perché? Allora, domenica 20 di febbraio, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9, questo come sempre e vengo anch'io, sono le 11:10 quasi. E prima di iniziare, naturalmente, come al solito, vi diamo il conto corrente postale della radio, 61804001 per sottoscrivere a Radio Onda Rossa, via dei Voci 56, 00185 Roma. E anche naturalmente il telefono della radio per intervenire in diretta e chiamare quando volete, insomma 06491750. Va bene Ettore, vai. Niente, noi proseguiamo i confronti che avevamo, diciamo, no? Cominciando a parlare con le realtà, diciamo, presenti su Roma, no? Domenica scorsa abbiamo avuto la Confederazione Cobas, abbiamo avuto l'altra settimana ancora con Nunzio Terme per l'area, diciamo, di Action. Stamattina abbiamo gli studenti, una parte delle varie anime dei studenti che sono organizzati, e cerchiamo di aprire quel dibattito che sarebbe necessario non svilupparlo più possibile. Ovviamente oggi è la domenica che precede, diciamo, la manifestazione pure, poi cercheremo di dire due cose sugli appuntamenti di Valerio Verbano e anche, no, della manifestazione ieri che c'è stata del movimento, diciamo, di lotta per la casa, del precariato, del sindacalismo di base e tutto quanto su la preparazione anche della giornata di protesta del 23 ai stati generali che si prepara di fare il Caimano Romano, che sarebbe Alemanno, no, quello che ha fatto fascistopoli nelle aziende municipalizzate, e vediamo di sviluppare sta cosa, cominciando anche a capire il movimento di studenti che, dopo aver fatto una grande battaglia coinvolgendo anche settori alti fuori dalla scuola sulla riforma Gelmini, approvata la riforma Gelmini, gli studenti si sono subito nuovamente immersi nei libri e stanno studiando. Questo periodo ci hanno molti esami, però i fatti gravi come erano prima, gravi sono rimasti, perché tutto quel grosso movimento che a molti ha messo speranza non ha cambiato granché. E poi, nello sviluppo dell'intervento, una cosa, perché noi speriamo che solo una generazione di giovani può superare questa situazione, perché questa generazione di ventenni è cresciuta solo con Berlusconi, non conosce, per fortuna, o peggio, non lo so, le storie Craxi, passate della sinistra, dei comunisti, dei compagni dei movimenti. Però, dato che si collega, Valerio Verbano aveva 19 anni. A 19 anni aveva la capacità di mettersi in gioco, talmente impegnato, che ha smosso persino i servizi segreti, perché poi alla fine, no, utilizzando i fascisti, perché metteva in crisi proprio il sistema. A 19 anni era un leader non nominato, come ti posso dire. E io vorrei che i giovani farebbero quello che il movimento del 77, il movimento anche del 69, erano tutti pischelli. Non c'avevano il grande vecchio che le comandava. E da soli, con la loro fantasia, si sono dati protagonismo. Io spero che questa stagione dovrebbe riprendere, e non le stagioni occasionali, no? C'è la riforma della scuola e da quel pretesto, però poi dopo uno si ferma. Nell'ambito di questa storia noi abbiamo avuto il confronto anche con Nunzio, parlando di sinistra e dei Uniti contro la crisi. Gli abbiamo imputato, che secondo noi è questo politicamente, che mi sembra più un'area politica d'appoggio alla candidatura di Nichi Vendola, anche se poi mar de pans. Gli abbiamo imputato pure che sembra la stessa esperienza che fu fatta dopo Genova 2001, e che fu fatta con Bertinotti, l'assorbimento di tutta una contestazione di classe dentro, riportarla dentro al sistema. Noi pensiamo che questa area sinistra contro la crisi ha anche queste caratteristiche, e forse questa è anche il blocco che magari alla scuola si sono fermate e stanno facendo. Sarebbe il caso, ecco, su sta cosa aprire un dibattito, aprire un confronto più ampio e cercare di fare. So che si sta preparando per la fine di marzo un'assemblea lavoratori e studenti all'università. Io ti do subito la parola, tu ci cioè, dici qualcosa. Prima di iniziare, no, volevo dare una notizia felice, insomma, che era quello del fatto che fra giovedì, cioè fra la notte tra giovedì e venerdì, fra la notte fra giovedì e venerdì, alla Fiat di Tichy in Polonia, e praticamente sarebbero state distrutte dal personale della fabbrica, 60 auto della Fiat in Polonia. Poi naturalmente questa è la nota ufficiosa della Fiat, però praticamente dice che il personale di sorveglianza parla addirittura fra le 200 e le 300 auto ammaccate, sfondate, regate, insomma. Quindi è iniziato il sabotaggio in quella Fiat che è stata per noi in Italia la fabbrica ricatto per fare gli accordi di Mirafiori e di Pomigliano. Abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori di Radio Onda Rossa. La mia era solo una parentesi per informare su quanto è successo ieri. Ieri c'è stata una manifestazione a Palermo in cui sono intervenuti molti studenti universitari, riguardava la morte di un giovane marocchino che è avvenuta ieri mattina alle 11 all'ospedale civico di Palermo. Lo chiamavano Franco gli universitari che passavano di là, perché lui era un venditore ambulante di 27 anni proveniente dal Marocco, che si era portato anche il padre e aveva una famiglia e una figlia di 3 anni in Marocco, a cui mandava 30 euro di guadagno al giorno. Questo giovane era un venditore ambulante che veniva perseguitato, a quanto dice il servizio di immigrazione della CGIL, perseguitato dalla polizia municipale, che gli ingiungevano di spostarsi perché secondo il regolamento il venditore ambulante non può stare fermo più di un'ora nello stesso posto. Quindi aveva subito diversi sequestri di merce, e la comunità marocchina dice che i sequestri non sempre venivano verbalizzati e la merce veniva rivenduta al mercato Ballarò di Palermo. Questo giovane marocchino l'11 febbraio, di fronte all'ennesima ingiunzione dei vigili, sempre gli stessi, ha minacciato di darsi fuoco, aveva una bottiglia di benzina che ha tenuto in mano per diversi minuti, circa 10. A un certo punto, di fronte a questa indifferenza, arroganza degli agenti, si è dato fuoco ed è finito all'ospedale civico di Palermo, ustionato all'80% del corpo, è morto ieri dopo 8 giorni di agonia. C'è stata una manifestazione in cui lo striscione era scritto contro il razzismo istituzionale, e questa mattina il capo dei vigili urbani di Palermo ha detto: se ci sono mele marce nel corpo le individueremo e li allontaneremo. Credo che a Palermo la comunità marocchina con i suoi venditori venga preso di mira da tempo. E quindi io volevo appunto dare questa informazione alla radio perché si allargasse questa notizia, circolasse, come sta circolando su tutti i blog e su internet, perché si dia spazio anche a queste azioni xenofobe, secondo me, a cui bisogna dargli uno stop. Quindi un giovane marocchino venditore ambulante è morto ieri dopo 8 giorni di agonia perché reclamava il diritto al lavoro, il diritto a poter vendere la sua merce, aveva un regolare permesso di soggiorno, però è perseguitato, a quanto dicono le comunità marocchine, dalla polizia municipale di Palermo, da alcuni agenti di polizia municipale di Palermo. Speriamo che si faccia luce e si faccia giustizia. Intanto il nostro abbraccio e solidarietà a tutta la famiglia. Grazie dello spazio. Grazie a te. Io in merito a questo, stamattina leggevo appunto che ieri sera si è incendiata una macchina dai vigili del fuoco con una scritta: pagherete caro, pagherete tutto. Naturalmente, al Palermo di queste cose qua non ne capitano spesso, per fortuna, insomma. Quindi, è un segnale. Un segnale del fatto che comunque a Palermo, cominciano anche là, insomma, degli atti di c'è un crescendo, ecco. Non è che non ci sono mai stati gli atti di razzismo e xenofobia, per carità, però insomma la città di Palermo in questo caso è sempre stata, insomma, in Sicilia in genere non è, cioè è sempre stata una solidarietà latente, anche perché insomma è stata sempre una terra di mezzo. Siete marocchini pure voi, no, insomma. Esattamente, nordafricane pure noi. Però no, vabbè, a parte insomma questo, cioè questa qua è retorica per carità, insomma, però cioè, e dispiace perché insomma è un segnale brutto del fatto che comunque c'è un'amministrazione comunale che a Palermo che insomma corrotta e mafiosa, insomma, questo qua si sa, non lo dicono solo le indagini e i giudici, questo qua si sa che approva comunque regolamenti assurdi di un certo tipo. E sto qua, per cui cioè, un ambulante a Palermo può stare fermo solamente un'ora in un posto e poi si deve andare a spostare, perché poi c'è, cioè, insomma, una serie di cose che comunque portano a questo, perché poi appunto si è creato, in questo caso è stato proprio un mobbing da parte dei agenti rispetto. Immagino che stessero lì col cronometro, no? A misurare i 60 minuti. Sì, no, quindi... ma andavano proprio a rompere, insomma. Appunto, voglio dire, insomma, è assurda tutta questa vicenda, no. Ma è chiaro che è figlia quella cultura... No, su cui oltretutto il centrodestra ha vinto anche le elezioni, no? Tutta basata sulla sicurezza, la cosiddetta sicurezza, quindi guerra ai lavavetri, ai venditori, sì, ambulanti, in regola, non in regola, è uguale, basta che siano, no? Venditori ambulanti e magari anche di colore, ecco che si scatena insomma la reazione da parte della... poi oltretutto pompata e supportata da campagne di stampa insistenti che ci sono state nel tempo, ma anche, basta guardare quello che è avvenuto a Roma, no? Su cui Alemanno ci ha fatto una campagna elettorale, no? Come se il problema di Roma, dei romani o comunque dell'Italia fossero i lavavetri. Eppure sui lavavetri si è scatenata una guerra che ha coinvolto addirittura il sindaco di Firenze, no? Ricordiamocele tutte queste cose, sì, questo è un paese... con le varie ordinanze municipali, insomma. Esatto, questo è un paese della memoria... Quella di Palermo, quella di Firenze, certo. A Roma stessa, insomma, certo. Alemanno ha fatto determinate cose. Vabbè, insomma, rientra in un arco di cui insomma, un paese abbiamo parlato e continuiamo della a parlare. Memoria, della memoria molto corta, qui, quindi è giusto bene ricordare queste cose. Riguardo alla appunto la notizia... che ci ha voluto segnalare, sottolineare insomma l'ascoltatore, l'avevamo vista sui giornali anche se è stata relegata come al solito, no? Quelle notiziole che la stessa notizia ha fatto scoppiare i moti in Tunisia e hanno rovesciato per una, Ben Ali, per la stessa più o meno un notizia lavoratore che si è dato perché fuoco, questa sì. Vessazioni che ha subito questo lavoratore migrante a Palermo è diffusa da tutte le parti d'Italia, che gli piano la roba, alla rinfusa la mettono nelle macchine, non fanno nessun verbale e spesso neanche gli fanno l'identificazione, la multa al coso, perché l'obiettivo è recuperare merce, questa merce che viene portata per canali diversi, no? Nel mercato sempre del giro, perché io penso che ci sia un mercato corruttore scientifico. Qui a Roma più volte vedo i vigili urbani che fanno questo tipo di attività. No, c'è anche la fermano al marciapiede quello che venne Borse, che venne l'Oggettini, così gli piano la roba messa sopra sto tappeto, gli buttano in macchina e se ne vanno. Quella roba vorrei sapere che fine fa. Allora, una parte, dove sta? Una parte viene distrutta immediatamente, quindi tra l'altro non c'è più neanche, come dire, il corpo del reato. E un'altra parte, se non viene verbalizzata, possiamo immaginare che strade prenda. Ma tanto per chiudere l'argomento, perché poi abbiamo appunto gli ospiti qui in redazione con cui inizieremo, diciamo, il confronto. No, ricordiamoci solo almeno una cosa, insomma, che chi ha portato avanti queste politiche xenofobe, razziste, di degrado proprio, insomma, a livello di umanità nei confronti dei strati più deboli, tra l'altro, perché questa persona che è morta, insomma, una persona che per sopravvivere, per riuscire a far sopravvivere la propria famiglia, appunto, svolgeva questo lavoro di venditore ambulante, vendendo oggettini, cose, tutto il giorno, a vendere tutti i giorni, per poter dare da mangiare alla propria famiglia. E lì sono intervenuti, appunto, queste guardie municipali che l'hanno portato al suicidio come estrema reazione a, evidentemente, una provocazione continua e costante. Ma da chi viene questa politica così feroce, così brutta, così negativa? Viene poi da una casta politica, no? Che tutti i giorni è sulle cronache dei giornali per nequizie e nefandezze, no? Rubano a rotta di collo, dobbiamo ricordare tutte le questioni legate a Parentopoli, al ministro Scajola, eccetera. Cioè, non smetteremo di parlare per una settimana, no? Per non parlare poi del grande capo, insomma, no? Che appunto, cioè, lui aiuta gli extracomunitari a suon di centinaia di migliaia di euro, e poi però no, vediamo, fuoco, vediamo come un lavoratore invece è stato costretto a suicidarsi di fronte alla disperazione a cui era stato portato. No, tanto per poi passiamo subito alla domanda che era iniziale agli studenti, no? Dico, a Milano è uscita Fittopoli dopo, no? Nuovamente là andiamo a scoprire che Carla a 92 Facci, no? Però poi vanno subito con molta determinazione a sgomberare i luoghi dove qualcuno trova rifugio, perché si crea il degrado lì. A fottersi i sordi dei vecchietti milanesi non è un degrado. Allora è un punto di vista di cos'è sicurezza o meno. Cioè, per dite che le contraddizioni di questa situazione, oggi i ben pensanti magari danno anche ragione al vigile urbano, no? Ci sono questi ben pensanti che pensano che il vigile urbano sta garantendo la sicurezza. Invece i vigili urbani sono dentro sto meccanismo di corruzione generalizzata, perché partecipano, perché sono le stesse persone, vigili urbani, carabinieri, polizia, che scortano questi veri banditi, perché poi gli fanno la scorta, gli vanno a Pia Vignotta a domicilio. Questo che fanno su sta cosa ti fa sempre incazzare di più, perché vedi un accanimento quasi come passionale quando si fanno sgombero di una casa occupata, di un corpo nomadi, ci mettono la cattiveria, poi davanti ai Scajola, ai Tanzi, ai Berlusconi, ai cosci, invece li proteggono e ci fanno la cosa. Ma ti rendi conto, Tanzi è condannato a 20 anni di galera, hai capito? Gli fanno la scorta davanti casa per proteggerlo. Sì, ma ci ricordiamo, quello, a proposito di garantire, cioè ci spendiamo pure i soldi per proteggere i banditi. Ettore, ci ricordiamo le dichiarazioni di Alemanno dopo la manifestazione, no? In cui ci furono degli scontri a Roma. No, il giorno dopo su tutti i giornali c'erano i pronunciamenti di Alemanno che diceva: come questi devono andare in galera, come sarebbe che le hanno messe agli arresti domiciliari o comunque scarcerati, ma come, lì non era più garantista, no? Poi con tutta la Parentopoli che si è trascinato dietro lui, che ha messo dentro estremisti di destra, i peggio fascisti, no, a capo delle municipalizzate, eccetera, tutto lo scandalo appunto che è esploso all'AMA, alla CEA, adesso stanno tutti sotto inchiesta, li so garantisti fino all'ultimo grado, no? Ma gli studenti devono stare in galera. Questo è Alemanno, non scordiamoci cos'è la destra, che cos'è la sicurezza per loro. La sicurezza per loro è che chi protesta, chi si ribella deve andare in galera, punto. Lì non c'è garantismo. Va bene, allora andiamo, ritorniamo con gli studenti alla domanda iniziale. Io, avendo avuto incontri con voi prima, durante il movimento, abbiamo fatto, insomma, sì, abbiamo ospedato, ci avevamo avuto pure molta fiducia, speranza. Ai studenti gli ho domandato: non è che la Befana e Natale e Epifania i studenti porta via dai fatti, purtroppo? Ma io capisco pure, perché io pure ho una figlia che fa la studente, sta all'università, so già 3 esami che sta data dopo Natale, perché c'è la necessità di andare, perché devi mantenere il curriculum, se non ci stanno e borse studio, se non c'è tutto. Però i fatti oggi penso che ci pongono una condizione di andare oltre, perché lo vedi, voi non avete nessun futuro, l'avete individuato perfettamente. Questa era la speranza, perché non avevate fatto un'avvertenza scolastica, ma avevate aperto un'avvertenza sociale. Avevate cominciato a dire: noi ci rivolgiamo il nostro futuro, andiamo a scuola, studiamo e poi finimo di fare i cartonari. Fra poco avvenne pure così su marciapiede come i tunisini, no? Dice: dopo aver studiato venimo sfruttati nel lavoro, non ci avevamo prospettive di un lavoro e tantomeno di pensione. All'età vostra la pensione non ci pensate, però purtroppo per voi ci arrivate. Vi posso garantire che io ci sono arrivato, e arrivarci senza niente e arrivarci con qualcosa c'è una differenza. Allora questo è il momento, voi ci avete l'orizzonte molto più lungo di quanto lo potrei avere io. Io la vedo le cose con l'ansia, perché a una certa età, no, comincio a vedere se non lo faccio oggi non faccio in tempo a vederli. Voi invece ci avete tutta questa speranza e va ripreso. Se quello era un movimento più sociale che scolastico, più politico di cambiamento, di un'alternativa vera a una società così schifosa che non lascia speranza e futuro ai giovani, perdere qualche esame magari, no? Sarebbe pure il caso. Noi ricordiamo dopodomani Valerio Verbano ci ha perso la vita a 19 anni. Non è che lui era uno che voleva morire, era uno che ci aveva la passione in un'epoca diversa, in un periodo diverso. Però erano i giovani in quel tempo che diventavano protagonisti, non c'era il grande vecchio che le guidava. Lavoravano distinto, tutti i giovani erano quelli che venivano poi perseguitati, messi in galera, via dicendo. Non è che c'erano i cose. Oggi il protagonismo è vostro, voi ci avete un vantaggio più del nostro. Noi venivamo da storie di separazioni, di sinistra, tutto qua. Voi l'unica speranza, tu vedo che sei un pischelletto piccolo piccolo, ti ricordi solo Berlusconi, non è che c'hai ricordi di altri politici, no? Al massimo comprodi qualche cosa, ma è negativo che è in positivo. Noi purtroppo venivamo da guerra fredda, di divisioni e via dicendo. Allora, come si prospetta? Che tensione ci può essere? Quale cosa si può fare per riprendere questa vertenza sociale aperta dalla scuola con la scusa da Gelmini? Perché poi la Gelmini, con tutto quello che è successo, la riforma l'ha fatta. Mo andrà in vigore. Se quella riforma vi bruciava il futuro, come si contrasta per riprendersi il futuro? Allora, intanto, cioè sì, ovviamente è innegabile che ci sia stato un riflusso, ma quello è fisiologico, purtroppo lo sapevamo da prima che i mesi di gennaio e febbraio presentano questo problema. Però devo dire che rispetto agli altri movimenti a cui ho partecipato, soprattutto quello del 2008, diciamo che non c'è stato un silenzio assoluto del movimento in questi due mesi, perché ci sono state assemblee importanti con i lavoratori, cosa che è fondamentale, perché si è continuato comunque a parlare, ovviamente magari non in situazioni di massa, però si è continuato a parlare e a pensare a quello che si può fare nei prossimi mesi. E comunque c'è stato lo sciopero del 28, che per quanto magari non è riuscito benissimo a livello dei numeri, però comunque è stato un appuntamento importante. E quindi adesso appunto i compagni, in generale diciamo gli studenti del movimento, si stanno interrogando anche su come proseguire questa mobilitazione. Innanzitutto abbiamo visto proprio in queste settimane come gli effetti della riforma Gelmini si stanno abbattendo in modo diretto, come noi dicevamo da molto tempo. Guardate che i tagli arrivano, poi si faranno sentire. Adesso si stanno facendo sentire, perché basta fare un giro per le facoltà e si vede che chiudono gli sportelli di orientamento, le biblioteche chiudono prima, i lavoratori dal canto loro hanno le riduzioni in busta paga con l'accordo integrativo della Sapienza con i lavoratori, ci sono accorpamenti di facoltà che riducono sia il personale, quindi colpiscono i lavoratori in prima battuta e in seconda battuta gli studenti, perché ovviamente diminuiscono anche i servizi. Quindi adesso tutte queste cose sono una realtà. e a marzo, quando riprenderanno i corsi, secondo me questo sarà uno degli aspetti che farà ripartire, spero immediatamente, spero in maniera forte, una mobilitazione dentro l'università. Ovviamente mobilitazione che da questo punto di vista sarà, diciamo, vedrà impegnati studenti e lavoratori dentro l'università, quindi nel loro luogo di azione sociale, per tentare di bloccare poi nei fatti l'applicazione della riforma, perché la riforma è stata approvata, sì, però deve anche entrare in vigore materialmente, cosa che, su cui comunque degli ostacoli si possono mettere. E inoltre c'è da far ripartire tutto il fronte di opposizione sociale, che non è studente, che non è certo prettamente studentesco, che avevamo visto nascere a dicembre col corteo del 14, che non era stato un corteo solo studentesco, anche se gli studenti ne erano una parte fondamentale. E tutto questo, secondo me, cioè, non vorrei essere troppo ottimista, ma succederà. Cioè, questa non sarà una primavera fredda, ma ci saranno comunque cioè, ci saranno dei percorsi che sapranno portare anche una conflittualità alta. Abbiamo gli effetti comunque della crisi, che non solo sugli studenti e sui lavoratori dell'università, ma in generale si fanno sempre più sentire. Abbiamo anche l'esempio di popoli a noi molto vicini, che comunque stanno intraprendendo cicli di lotte importanti, conflittuali, che in alcuni casi hanno prodotto anche dei risultati importanti. E quindi c'è un clima per cui, ovviamente, una volta passato questo maledetto periodo degli esami, perché sia i compagni militanti che anche e soprattutto gli studenti, diciamo, che si sono mobilitati, purtroppo hanno questa esigenza di dover... abbiamo sempre, grazie alle ultime riforme, ad esempio, ogni anno le tasse che raddoppiano di anno in anno, e quindi rimanere indietro è un problema serio. Comunque, passata questa maledetta fase degli esami, io sono convinto che sapremo riprendere con forza. Facevo fare una battuta pure a Luciano su questo. Sì, no, io intanto appunto mi presento, sono Luciano, studente di lettere della Sapienza di Atenei Rivolta. E, no, io prima volevo fare una battuta. Prima facevate il discorso sull'ipocrisia del garantismo, no? Di questa classe politica. Noi quest'autunno, visti gli attacchi, le dichiarazioni che ci facevano su quanto eravamo terroristi, criminali, specialmente dopo il famoso assalto a Palazzo Madama, quando siamo addirittura arrivati a entrare quasi dentro, no? Siamo andati a scoprire che nel 93 il signor Gasparri con Alemanno eccetera hanno fatto la stessa cosa. Sono stati denunciati, erano una cinquantina di militanti dell'allora Fronte della Gioventù ed MSI, sono stati denunciati e l'onorevole Fini si meravigliava e gridava contro la repressione della polizia contro 50 studenti e giovani che erano entrati dentro Palazzo Madama. Vent'anni dopo... A Montecitorio. E vent'anni dopo siamo diventati dei terroristi, noi studenti, che eravamo solo un po' di più e forse più rappresentativi della realtà sociale di quanto non lo fossero stati vent'anni prima 50 militanti dell'MSI. A parte questo, prima si faceva riferimento appunto alla stagionalità un po' del movimento studentesco. È una cosa che, come diceva Mattias, è sintomatica... anche di come viene vissuta l'università adesso. Ci capita di confrontarci spesso anche con compagni e compagne che hanno fatto i movimenti prima di questa università, in università con un altro ciclo di studi, i famosi vecchi e antichi ordinamenti, no? E lì la ciclicità era un'altra, i movimenti partivano a febbraio, il 77 è partito tra febbraio e marzo e si spegnevano in altri momenti, avevano pause differenti. E questo purtroppo appunto è sintomatico del modo in cui si vive l'università, processo che è stato accelerato da queste riforme, cioè, e su questo noi lo diciamo da tempo. Le riforme degli ultimi anni, oltre ad avere l'obiettivo di allineare in un'ottica neoliberista la grande industria della formazione in Italia e in Europa, hanno anche avuto un risultato determinante, avere trasformato il modo stesso di vivere l'università. L'università parcheggio dove le grandi masse studentesche stavano per quasi un'intera generazione, si stava all'università dai 5 ai 10 anni e si faceva anche militanza lì, si teorizzava, si discuteva. Tutto questo non avviene nell'università di oggi, che è un'università vissuta, noi lo diciamo spesso, come fabbrica di precarietà, come supermercato, frequenze obbligatorie, lezioni obbligatorie, esami che bisogna dare assolutamente per un determinato tot di crediti entro determinati termini, se no la borsa di studio non ce l'hai più, la casa dello studente la perdi, se no diventi fuori corso e le tasse schizzano alle stelle. Tutto questo ha anche conseguenze dirette sul livello di militanza che gli studenti possono mettere in campo. ma non è solo un dato quasi logistico e di agenda quotidiana dello studente del 2011. Io riporto una discussione che ci stiamo facendo in queste settimane, e anche analizzando non solo il movimento studentesco, ma le ultime giornate di mobilitazione che abbiamo visto, ultima il 13 febbraio, quella delle donne, e, ma anche altri segnali come le migliaia e migliaia di persone sotto al Palazzo dei Congressi quando Saviano fa un incontro, o il consenso che c'è intorno a, ad altre forme di partecipazione politica molto diverse da quelle che il movimento studentesco e altri movimenti possono avere messo in campo. E cioè il fatto che ci sembra ormai evidente che in questo paese negli ultimi due anni, e lo dice pure una recente intervista, un recente sondaggio pubblicato anche da Repubblica sulla cosiddetta voglia di piazza, c'è una predisposizione da parte del... una volta si diceva della classe italiana, però anche forse un po' di più, c'è anche molto di quel pezzo di società civile magari non proprio appartenente a una determinata classe, anche diciamo sfruttata e precaria, ma che comunque vive un anti-berlusconismo sfrenato e che quindi ha questa predisposizione di piazza. Beh, tutto questo, questa voglia di mobilitarsi, questa voglia di provare a cambiare qualcosa, anche non più soltanto attraverso strumenti elettorali, attraverso le scadenze elettorali, sta crescendo, è cresciuta enormemente dal 2008 a oggi, lo vediamo i numeri che hanno mobilitazioni come quella delle donne o quella studentesca, però in quest'autunno gli studenti sono stati un catalizzatore di questa protesta, ed era una protesta che, come giustamente diceva Mattias, appunto andava molto al di là della riforma Gelmini in sé, che tra l'altro, diciamocelo fra di noi, dentro l'università la vita dello studente cambia poco con la riforma Gelmini, cambia molto la vita del ricercatore, cambia molto nell'amministrazione dell'università, ma noi viviamo la politica scellerata messa in campo dal 3 più 2 del governo di centrosinistra, quella è la didattica che subiamo noi, come le riforme Moratti e quelle prima ancora tutti i decreti anche del governo Prodi del 2006, quindi il punto non era tanto la riforma Gelmini, come penso non sia adesso il caso Rubbi che ha mobilitato le donne, come penso non sia soltanto la questione dell'acqua, per dirne un'altra, il fatto sta che il Movimento per l'Acqua ha chiamato una manifestazione il 26 che parla anche di molto altro. E il punto è come fare collegare questo molto altro, cioè rimanere sulla... abbiamo due possibilità, o pensare che si può andare avanti a scadenze indette da un qualche soggetto sociale, quindi si mobilita la FIOM e tutti diamo solidarietà alla FIOM, si mobilitano le donne e si dà solidarietà alle donne, si mobilitano gli studenti che sono la gioventù di questo paese, tutti con gli studenti e siamo contenti anche se ci bloccano il traffico. Il punto è passare da un applauso di solidarietà dal balcone che ci hanno fatto in questi mesi tanti e tanti cittadini di questa città, o gli applausi che noi abbiamo fatto ai lavoratori della FIOM, o il sostegno dato alle donne il 13 febbraio, a un meccanismo, io non voglio definirlo costituente come si poteva dire 10 anni fa il movimento No Global, ma che comunque guardi a un meccanismo di mobilitazione costante che sia in grado di rovesciare Berlusconi e fare capire che Berlusconi non deve cadere solo tramite inchieste giudiziarie, ma che possa anche rappresentare una speranza per un governo di centrosinistra che magari viene dopo, di terzo polo, che sia incalzato da un qualche movimento sociale e a cui invece non si guardi con la speranza di dire adesso finalmente non abbiamo più Berlusconi e il governo che verrà sarà un nostro alleato, ma porre le premesse per una conflittualità sociale che possa durare anche dopo Berlusconi, perché, e qui chiudo, è vero che siamo figli di 20 anni di berlusconismo, però io e Mattias e tutta la generazione di studenti siamo anche figli di 20 anni di anti-berlusconismo, che non è che abbia creato tutte queste premesse per la mobilitazione sociale. No, io su queste ultime due cose che hai detto, no? Hai citato in maniera chiara, no? L'anti-berlusconismo e la voglia di piazza contemporaneamente. Perché in effetti, insomma, negli ultimi anni, insomma, il berlusconismo è stato, diciamo, un elemento fondante è l'unico elemento, vabbè, mo non vogliamo dire proprio l'unico, però sicuramente è stato l'elemento fondante delle mobilitazioni di piazza che ci sono state non solo quest'anno, l'anno scorso, ma pure ormai da parecchi anni. Però appunto questo anti-berlusconismo non ha saputo parlare di altro che non la personalizzazione della politica, al contrario, no? Cioè chi scendeva in piazza contro la personalizzazione della politica alla fine la personalizzava a sua volta. Quindi perché insomma non sapeva parlare, cioè tutte queste piazze che non, cioè non parlo solo, cioè non parlo in questo caso delle piazze costruite dai compagni di movimento, dell'antagonista, insomma, che avevano i suoi contenuti, anche se anche quella a volte andavano a parlare sull'antiberlusconismo, per carità. Però, diciamo, c'è le altre piazze della pseudo-sinistra italiana, della società civile, dell'associazionismo italiano, insomma, è andato sempre a parlare sull'antiberlusconismo. Un antiberlusconismo, appunto, cioè, che non ha invece saputo parlare di altro in Italia, insomma, non ha saputo parlare di lavoro, non ha saputo parlare veramente di quella che è la condizione delle donne, come non ha saputo parlare veramente di quella che è la condizione giovanile di precarietà, eccetera, eccetera. No, faccio tutti i paralleli con le mobilitazioni che abbiamo visto fino ad adesso. E questa cosa qua ha quasi anestetizzato, no, la volontà di una contrapposizione, diciamo, materialista, no? Se vogliamo usare un termine differente, insomma, classico, però cioè, ha quasi sopito anche alle generazioni nuove una capacità di analisi differente rispetto al viversi materiale, quindi al saper usare le contraddizioni in una certa maniera, a saper affrontare determinati problemi. Insomma, non si parla più di altro che non dei Berlusconi, insomma, anche a volte strumentalizzando, appunto, dai temi importanti come quello delle donne o quello dei lavoratori. Però, appunto, cioè, questo qua è un problema che ci siamo visti, è un problema che secondo me ha fatto male anche, ora entrando nel merito degli studenti, ha fatto male anche al movimento studentesco in parte, però è anche vero che, insomma, il movimento studentesco di quest'ultimo anno rispetto magari a quello dell'Onda è riuscito a dare un lancio differente rispetto ad alleanze, no, con altri soggetti in lotta in questo paese, tipo preeminentemente i lavoratori, visto che, insomma, il periodo che è anche per loro, insomma, con gli accordi sindacali, attacchi ai diritti, a cassa integrazione, licenziamenti, eccetera, eccetera. Però, insomma, quella, cioè, secondo me, insomma, bisognerebbe cominciare a coltivare quella cosa che è andata oltre l'antiberlusconismo, che era questa alleanza con i lavoratori, che era parlare di alcune problematiche che attraversavano non solo i militanti, ma tutti gli studenti che scendevano in piazza. Insomma, questo è stato l'elemento positivo più importante con cui i compagni ancora guardano agli studenti con una speranza di un certo tipo, no? Io volevo lasciare la parola a loro rispetto a questa cosa qua, no? Come facciamo a rilanciare quelle alleanze con i lavoratori, quelle alleanze con i soggetti sociali oggi? E noi l'abbiamo visto per esempio con il 28, no? Chi è andato allo sciopero della FIOM, chi è andato allo sciopero dei sindacati di base, però per esempio, cioè, sul rapporto dei con i sindacati, per esempio, no? Cioè, nei mesi scorsi il rapporto con i sindacati è stato quello unilaterale, quasi con la FIOM, più che altro con la dirigenza della FIOM, insomma. Poi il 25 di gennaio siamo riusciti invece a fare un'assemblea più grande, insomma, più aperta, che parlava non solo alla FIOM ma ai sindacati di base, ma più che altro parlava all'RSU, ai lavoratori, insomma, quelli che lavorano veramente, non dei dirigenti di qualche sindacato. Questo qua è stato un risultato che poi però, insomma, è andato un po' affievolendo, visto che si è inserito in un mese, quello di gennaio, che è pieno di esami, e che noi da anni non vediamo un'assemblea comunque grande che c'è stata. È stato un segnale, abbiamo messo un punto di analisi, anche di volontà, però, insomma, come fare adesso con i rapporti con i sindacati, per esempio? Ecco, cioè, secondo voi la FIOM è ancora l'unico interlocutore privilegiato? La FIOM riesce, cioè, la parola d'ordine rimane sempre quello della convocazione dello sciopero generale, e comunque la CGIL non darà 5 mesi che ce ne ha appresso e non ci dà? Insomma, queste sono alcune domande che vi faccio. No, una cosa sola, solo, se no se ne sembra che ci sia stato 20 anni di antiberlusconismo. Non è stato così. No, vabbè, perché perché cioè... noi nel 2001 non siamo andati in piazza con l'antiberlusconismo, no? Abbiamo fatto tutta la campagna contro la guerra, cosa che poi ancora ce ne stanno le conseguenze. Non era una campagna antiberlusconiana, cioè anzi vedevamo che da centrodestra e centrosinistra ci massacravano tutte le operazioni che oggi... è sfociato, cioè che l'hanno portato dentro l'antiberlusconismo attraverso gli accordi Coberti-Notti, tanto per non fare. Esattamente, perché no, alla fine... Non vorrei che oggi attraverso il Nichi, no, ecco quella è la speranza, che se un'avvertenza sociale va portata a prescindere, non ci saranno governamici. Allora, io intanto prima non mi sono presentato, sono Mattias di Resistenza Universitaria. Volevo un attimo tornare indietro all'inizio del discorso che faceva Dario, cioè quello sempre sull'antiberlusconismo, con una battuta breve poi passo all'altra domanda. Uno dei danni più grandi, secondo me, che ha portato l'antiberlusconismo in Italia è stato la sacralizzazione del concetto di legalità, che è un concetto che è quasi del tutto privo di senso, perché abbiamo visto uno scagliarsi contro una figura sbandierando il nome della legalità, cosa che poi ha portato a chiudere completamente gli occhi su cosa va a difendere la legalità, quali sono le leggi che questa legalità difende e che quindi non vanno infrante. E qui abbiamo la legge 30 sul lavoro, abbiamo le varie riforme dal 90 in poi dell'università, abbiamo leggi che ci stanno condannando a vivere senza un futuro. Però appunto quello che la sinistra antiberlusconiana è riuscita a dire è il concetto di legalità, cosa che poi porta personaggi tipo Saviano a prendere posizioni da nessuno richieste dopo la giornata del 14 dicembre, provando a fare il guru del movimento e a dare le indicazioni appunto, e comunque vanno sempre nel rispetto di questa legalità che è diventata una specie di mostro sacro che non si può attaccare. Detto questo, su come rilanciare, cioè come proseguire la lotta con i lavoratori. Allora, intanto si sta aprendo un fronte interno alla Sapienza da questo punto di vista. Ah, cioè, quello poi, cioè andiamo dopo, okay, poi okay. Nello specifico. Ok, diciamo. Ok, allora passo oltre. In generale, no, vabbè, parla anche di questo. Sì. No, ma anche in generale, diciamo che secondo me i percorsi da intraprendere, pur essendo molto faticosi da intraprendere, non passano tanto per appunto accordi con dirigenze sindacali o con diciamo parlamentini dei tra virgolette dirigenti del movimento studentesco e i dirigenti senza virgolette dei sindacati. Passa piuttosto attraverso la costruzione di assemblee in cui ci si confronta, in cui partecipino le RSU e partecipino tanti studenti, si formulino proposte anche di azione concreta, ovviamente affiancate a proposte politiche più generali di rivendicazione. E il fatto è questo, cioè la giornata del 28 è stata divisa in varie piazze, ma in realtà si è ribadito sempre da tutte le piazze che erano due piazze che andavano nella stessa direzione. Comunque quella di resistere all'attacco dei padroni, all'attacco di Marchionne e dalla parte degli studenti agli attacchi delle riforme. E da questo punto di vista diciamo che... cioè questa è la strada, secondo me, cioè l'unica strada che si può battere, perché appunto portare avanti accordi o solidaristici comunque, che quindi quando scende in piazza la FIUM, quando scendono in piazza Ecoba, gli studenti gli danno una mano, così come viceversa quando scendono in piazza gli studenti i sindacati si mettono in fondo al corteo, quello ormai è inutile, quella è una fase che c'è stata, cioè è inutile, è bella la solidarietà, sempre positiva, però... adesso tocca fare un passo avanti, tocca costruire piattaforme politiche, anche di mobilitazione, anche di manifestazione, insieme, molto semplicemente, assemblee in cui ci si alza e si fa una proposta, cioè può essere sbagliata quanto ti pare, ma non bisogna più aspettare che qualcuno, che possa essere sempre tra virgolette dirigente studentesco o dirigente sindacale o addirittura, prima si faceva cenno al Nichi di turno, addirittura candidato a diventare non si sa cosa, comunque grande personaggio in qualche modo della politica italiana, ci dica lui quello che dobbiamo fare. Cioè, ovviamente è molto più faticoso fare un percorso di auto-organizzazione dal basso, questo non possiamo nascondere. Però al momento, vista anche comunque la voglia che c'è, che comunque si registra in tanti studenti e in tanti lavoratori, di riprendere la parola, e di riprendere un protagonismo, secondo me è una fase in cui percorsi del genere possono anche andare avanti in maniera valida. Sì, prima Ettore tu facevi riferimento anche a Uniti contro la crisi, no? Il percorso messo in campo da e sostenuto anche da una parte del movimento studentesco, da alcune organizzazioni studentesche che hanno un peso anche rilevante, se vogliamo, in parecchie mobilitazioni in varie città d'Italia. E noi non partecipiamo a quel percorso, e forse anche un po' il limite sta proprio dove, in quello che si diceva prima, perché guardandone inizialmente lo spirito, uno non può che pensare che sia quello di cui c'è bisogno, no? Un meccanismo di dialogo costante che metta in piedi anche una rete di confronto reale fra gli unici pezzi che finora possono avere avuto modo di mobilitarsi e anche essere catalizzatore di altri. Però ci sembra che sia un po' troppo una parte, e ci sembra che sia un po' troppo un meccanismo che passa per un confronto fra alcune dirigenze, tra l'altro alcune che sono sempre quelle, sempre le stesse, che erano sempre quelle anche 10 anni fa. E banalmente l'appello con cui è iniziato è un appello che ha girato con quella 30ina di firme, si chiedeva di aderire, non di firmarlo in maniera paritaria o di contribuire alla scrittura. E questo ovviamente non lo diciamo in polemica, ogni realtà ha tutta la legittimità di costruire i propri percorsi e devo dire anche in un... Nell'ultimo periodo di questi confronti reali, orizzontali, anche dentro la Sapienza e fuori, ne abbiamo avuti svariati e devo dire anche in maniera abbastanza fruttuosa. No, quello che diceva Mattias è vero, cioè i limiti che hanno dei meccanismi di confronto esclusivamente fra dirigenze in un momento in cui le stesse forme della rappresentanza politica come è anche sindacale, lo vediamo da quante sono le vertenze, le lotte portate avanti in posti dove i sindacati magari contano anche poco. E, per fare degli esempi, noi l'anno scorso anche con compagni di Resistenza Universitaria abbiamo seguito parecchio le uniche due vertenze che si erano mosse un po', cioè quelle dei precari della scuola che abbiamo sostenuto andando anche a occupare i loro presidi stabilmente, e quella che per esempio a Roma ha visto coinvolti i lavoratori di Eutelia. E sono realtà dove non è stato merito del sindacato se si è mosso qualcosa, anzi forse merito del sindacato è stato certe volte quello di aver creato più litigi interni che non sostenuto, ma questo non per attaccare questo o quell'altro sindacato. Noi lo dicevamo pure il 28, ci avete messo pure in una brutta situazione, cioè noi non volevamo scegliere fra una piazza piuttosto che l'altra, questa è l'ultima cosa di cui ci sarebbe bisogno adesso. E siamo consapevoli che il confronto fra per esempio realtà confederali e realtà di base di fatto non c'è neanche per volontà. Cioè sarebbe anche stupido mettersi a capire chi non vuole parlare con chi, chi pone dei limiti a una ricomposizione reale del sindacalismo in Italia, no, ma non sta soprattutto a noi studenti dover scegliere una parte in questo momento, anche perché se siamo così in difficoltà e abbiamo così tanto bisogno di mobilitarci, forse è perché pensiamo troppo a costruire una parte, a dialogare con qualcuno piuttosto che con qualcun altro. Quello che pensiamo rispetto a cosa fare adesso nei confronti anche di un dialogo studenti-lavoratori passa sicuramente un po' per l'analisi del 14 dicembre di quello che è stato. Noi non ci interessa rivendicarci pienamente tutto quello che è stato messo in campo. Personalmente ritengo che quello che è successo il 14 sia quello di cui c'era assolutamente bisogno in questo paese. Però sono anche convinto che quello che abbiamo visto il 14 non si è dato per caso. Si è dato perché dopo mesi e mesi svariati soggetti sociali avevano voglia di esprimere la propria rabbia. Quello di cui abbiamo adesso bisogno è che in primavera si ritorni a una mobilitazione del genere, che passi anche da un non aspettare per forza lo sciopero della CGIL, che potrebbe anche arrivare, ma a noi cosa ci servono 4 ore di sfilata a metà aprile, come è stato il 12 dicembre del 2008, a movimento studentesco ormai in pieno riflusso? Ci servono a poco. Oppure possono essere un'occasione se, per esempio, gli studenti, ma ci aggiungo io in piazza il 14 dicembre a cercare di arrivare sotto a Montecitorio, ero accanto ai comitati dell'Aquila, a quelli di Terzigno, ero accanto anche ai lavoratori della FIUM che come individui sono venuti e hanno dato una mano alle mobilitazioni anche praticamente in piazza. Questo vuol dire che o si ricrea quello spirito di unità e soprattutto voglia di rivolta reale, anche cercando di guardare a cosa succede fuori da noi, perché è troppo facile dire quello che succede intorno al Mediterraneo è frutto di contesti diversi, là ci sono regimi che durano da vent'anni, ci sono i sultani che governano, eccetera. Però a parte che sono sultani che a quanto pare sono imitati da chi ci governa. Perché qua in Italia, esatto, sono vent'anni che governano. È il modello di governo di Berlusconi, a quanto pare, quel sultanato così. Ma a parte la battuta, non può bastare il dire c'è il contesto diverso, perché quel contesto diverso porta al fatto che la gente si suicidia bruciandosi in piazza. In Italia dovrebbe comunque portare a una stagione di conflitto, visto che quello che subiamo noi in Italia è forse la punta più avanzata di quello che è in tutto il mondo occidentale, la punta più avanzata di quello che con più recrudescenza colpisce i margini del mondo e le periferie del mondo occidentale. Abbiamo una chiamata in onda, pronto? Pronto? Sì. Buongiorno. Volevo dire una cosa che mi risulta dalla mia esperienza lavorativa. Abbinare la pratica, che potrebbe essere rappresentata dai lavoratori, alla teoria, che potrebbe essere rappresentata dagli studenti. Questa è una cosa che a me ha fatto ottenere dei notevoli risultati e quindi non si è mai pensato di, prima di tutto, autoistruirsi, perché non mi pare che questa istruzione capitalistica abbia ottenuto dei grandi risultati, anzi ha ottenuto dei pessimi risultati. Quindi io, fossi giovane, all'università non ci andrei, perché so benissimo che mi farebbero studiare su testi, come è successo anche a me tanti anni fa, vecchi, di parte, pieni di incompetenza. Ora non so se è questo che risulta anche agli studenti universitari. Per me è così. Quindi ecco, io dalla mia esperienza posso soltanto suggerire di unire la pratica rappresentata dai lavoratori alla teoria rappresentata dagli studenti e farsi un'istruzione propria, che secondo me è molto più efficace di quella che ti possono fornire questi obsoleti. Tutto qua, auguri. Ok, grazie. Ciao. Senti, io poi riprendiamo, no, perché ci interrompiamo, altre domande. È un'ora. Vabbè, andiamo in musica. Tutti morimmo a stento, ingoiando l'ultima voce, tirando calci al vento, vedemmo sfumare la luce. L'urlo travolse il sole, l'aria divenne stretta, cristalli di parole, l'ultima bestemmia detta. Prima che fosse finita, ricordammo a chi vive ancora che il prezzo fu la vita per il male fatto in un'ora. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Poi scivolammo nel gelo di una morte senza abbandono, recitando l'antico credo di chi muore senza perdono. La la la la la la la la la la la. Derise la nostra sconfitta. Va bene, allora ritorniamo in onda dopo la pausa musicale. Abbiamo già una chiamata in linea, pronto? Sì, ciao. Io vorrei dire due cose che ho sentito di cui avete discusso negli ultimi minuti. E una riguarda la questione Uniti contro la crisi. Io sono d'accordo con le critiche che sono state fatte tutte quante a Uniti contro la crisi. Il problema però è, in questo momento, secondo me, non concentrarsi troppo su cos'è Uniti contro la crisi, cos'è questo progetto che è già stato avviato, quanto piuttosto andare a raccogliere tutte quelle che sono le anime che non fanno parte di Uniti contro la crisi e tentare di capire qual è quel filo comune che può legare tutte queste anime. Io questi discorsi ancora li sento fare poco negli spazi, negli ambienti dell'antagonismo e di lotta, sia a livello sindacale di base sia a livello di studenti, e questa è un, secondo me, una necessità che abbiamo, non concentrarci troppo su quanto di sbagliato c'è accanto a noi, ma su quello che noi non stiamo facendo, anche perché penso che la critica migliore che si possa fare a Uniti contro la crisi sia proprio quella di partire noi con un progetto alternativo reale, a partire proprio da quello che è stato detto fino ad ora, per esempio percorsi di auto-organizzazione dal basso. Un'altra questione, poi sentivo prima Luciano che parlava di sindacati, che in questo momento è sbagliato andare a capire chi non parla con chi, perché io la vedo un attimo differentemente, perché secondo me appoggiando una mobilitazione, partecipando non solo a dei corti ma proprio a dei processi organizzativi, è bene sapere sempre con chi si ha a che fare, è bene sapere, non voglio ritornare su quanto la CGIL e la FIOM abbiano fatto fino ad ora, però è bene sapere chi sono sia i sindacati di base, sia la FIOM, sia la CGIL, e questo può essere un discorso anche che si può fare a livello personale, ovvero io ora sono uno studente, un domani sarò un lavoratore, spero, e un domani vorrò avere dei sindacati di lotta accanto a me uniti, e io devo farmi anche promotore in questo momento, dato che gli studenti sono quasi sempre gli unici che si mobilitano per davvero, vorrei farmi promotore di questa unione reale di sindacati, e bisogna però capire quali sono i problemi, perché non è che si può andare a dire ai COBAS o alla FIOM o dovete mettervi a parlare a un tavolo a discutere così, senza capire poi quali sono stati i problemi negli anni, quali continuano ad essere. Volevo dire giusto questo, volevo apportare questo contributo. Ok, grazie. Okay. Francesco, ciao, buona giornata. Aspetta, c'è il microfono spento, vai. Avete oscurato. Oscurato ormai. Allora, è no, lente da un'ora, Roberto, quindi stavo pure agganciarmi alla telefonata, però prima di questo volevo fare una precisazione, un distinguo, insomma. Una cosa è l'anti-Berlusconi, una cosa è il berlusconismo. Sono due concetti che vanno, come dire, in qualche modo disaggregati, anche se sono intimamente collegati, questo è ovvio, insomma, il berlusconismo nasce appunto a Berlusconi. Ma il problema è che a un'unità contro Berlusconi, no, possa non corrispondere un'efficace controoffensiva di carattere proprio culturale sul berlusconismo, che invece è divenuto probabilmente un fattore un po' trasversale, no? È stato un po' introiettato in tutti questi anni, no? di governi Berlusconi e non solo. Non dimentichiamoci che anche tutte le campagne, appunto, sulla sicurezza, xenofobe, razziste, eccetera, a volte sono state fatte del tutto o in parte, no, proprie anche dalla cosiddetta sinistra, o comunque dal centro-sinistra, insomma. Prima ricordavamo le ordinanze del sindaco di Firenze sui lavavetri, tanto per dirne una. Ecco, allora, anche Veltroni non è che ci è andato liscio, ma in quel periodo faceva la concorrenza ai sindaci leghisti. Ma ricordiamoci Rutelli, che in campagna elettorale si vantò di aver preso quasi a botte qualche ambulante, no, al centro di Roma, tanto per dire noi siamo contro il degrado, eccetera eccetera. Quindi ecco, stiamo attenti a distinguere bene, perché si abbatte Berlusconi, ma se sopravvive il berlusconismo, insomma, le cose non vanno assolutamente bene. Detto ciò, ricollegandomi un po' con la telefonata, ma noi quando abbiamo iniziato, diciamo, questo ciclo di trasmissioni, no? La prima l'abbiamo fatta appunto con Nunzio Terme, siamo partiti da un concetto, da un presupposto: fare chiarezza. Perché ovviamente se non c'è chiarezza, no? Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è il buio, e col buio si vanno a dammusate a destra e a sinistra. Quindi bisogna capire, avevamo detto, capiamo però bene quali sono i soggetti in campo, no? Su cui andiamo o non andiamo a interloquire, capiamo la natura e il ruolo. Quindi quando noi abbiamo attaccato la CGIL non è che l'abbiamo fatto in base così a un fattore di pregiudizio ideologico, l'abbiamo fatto in base a un'analisi che in quella trasmissione ci siamo limitati a far partire, no, dal famoso pacchetto Treu in avanti, ma perché? Non certo per fare che ne so, un corso di studi. Potevamo partire anche dal 93, molto prima. Ma no? Potevamo partire dalla svolta dell'euro. Dal 17 febbraio al ritrovato fino a. Lasciamo perdere. Dal 17 febbraio del 1976. Non siamo qui per fare lezioni di storia, ma il problema è un altro, però, che i percorsi, no? E la continuità, il continuismo di un certo tipo di, appunto, linea sindacale e sindacale politica portata avanti da un determinato soggetto, poi caratterizza e qualifica questo soggetto. Ora, se uno dei problemi fondamentali con cui oggi dobbiamo fare i conti è la precarietà e il precariato, credo che sia giusto e normale in qualche misura ricordare come è iniziata tutta questa vicenda legata al precariato, che adesso non starò qui a ripetere, ma che comunque, appunto, abbiamo cercato in qualche modo di illuminare ricordando, appunto, il fatto che l'attacco alla rigidità del mercato del lavoro in Italia è iniziata, appunto, col famoso pacchetto Treu. Da lì è iniziata, appunto, una interminabile sequela di norme contro norme che comunque hanno sempre più esteso la precarietà e la precarizzazione, e nessun governo di centrosinistra ha ostacolato o abrogato. Il centrosinistra. Appunto, dicevo, se uno poteva pensare che dice, vabbè, si sbaglia, ma poi dopo si riflette sui propri errori, no? E si cerca di... Invece in questo caso non è avvenuto. Ma allora perché non è avvenuto? Non è avvenuto perché evidentemente al di là delle chiacchiere, parole, slogan, menzogne e manipolazioni, si ritiene che comunque queste forme di flessibilizzazione, che per noi non sono altro che precarizzazione del lavoro e della vita, siano compatibilissimi e anzi utilissimi al sistema. Però c'è una chiamata, poi riprendiamo. Pronto? Pronto, buongiorno a voi e ai vostri ospiti. Io sono un lavoratore Trenitalia, ho partecipato all'assemblea lavoratori studenti che avete fatto all'università, mi sembra il 25 gennaio, e quindi volentieri intervengo su, insomma, così, interloquendo anche con i vostri ospiti, e sperando di continuare quindi questa interlocuzione, un po' difficoltosa, ma diciamo, io credo questo. 14 dicembre, già in un mio precedente intervento di alcune settimane fa, avevo detto che quella giornata lì aveva impensierito tanti soggetti politici e sindacali. Alcuni hanno tentato di risolvere la questione subito, cercando di mettere i bastoni tra le ruote a quella giornata, senza riuscirci in verità. Alcuni hanno riflettuto e si sono mossi subito dopo, insomma, no? Impensieriti, si sono dati da fare al loro modo, cercando di, appunto, di ridurre ai minimi termini, insomma, quel movimento e quella giornata. Perché? Perché quella giornata, il 14 dicembre, era andata ben oltre le ragioni sociali della sua indizione e delle intenzioni di quanti avevano indetto quella giornata. Da una spallata di piazza al governo. Questa era l'intenzione. In molti, purtroppo per i delusi, per i pompieri, hanno parlato d'altro in quella giornata, appunto hanno parlato di futuro, hanno parlato di libertà, addirittura hanno parlato di liberazione, no? Hanno disertato l'assemblea che avevano preparato, quella democratica in cui parlavano tutti, e non si concludeva niente, sono andati da altre parti, hanno sfondato i cordoni dei pompieri, quelli che abbiamo visto all'opera, insomma, addirittura contro ragazzini dei 15 anni. Lo so che è un tema scabroso, ma non è col silenzio che si risolvono i problemi. Insomma, hanno provato, hanno fatto di tutto per fermare, insomma, quel tipo di movimento e quel tipo di espressione anche di pratica, di piazza del movimento. fatto lo sciopero di categoria della FIOM, ricordiamoci, uno sciopero di categoriale, insomma, a cui c'è stato il lodevole tentativo del dei Cobas di trasformarlo in sciopero generale, con risultati non proprio diciamo entusiasmanti. Comunque il tentativo c'è stato, ed è stato un tentativo positivo, secondo me dovuto. Adesso però sullo sfondo, diciamo così, della dinamica politica nazionale c'è meno spazio per i movimenti, ma soprattutto c'è meno spazio per quanti li vogliono fermare i movimenti, perché probabilmente si andrà alle elezioni, quindi altro che movimenti, tutti a casa, l'UDU, famosa l'asilo del Partito Democratico, insomma i studenti del Partito Democratico sono tornati all'ovile perché ci hanno da attaccare i manifesti della grande coalizione, un po' sbrindellata in verità, cioè però che stanno tentando di mettere in piedi. E poi c'è sta il partitone FIOM, insomma, no? C'è quello che raggruppa intorno a sé di tutto, insomma, no? Si va da più o meno unità contro la crisi a altre agglomerazioni politiche come appunto SEL, che non so manco l'acronimo che vuol dire, non me lo ricordo quello che vuol dire, comunque insomma il partito di Nicky Vendola. Sinistra e Libertà. Sinistra e Libertà, va a posto. Ecologia. Sinistra, Ecologia e Libertà. Che veleggia, mi sembra, attorno addirittura all'8% nelle previsioni, poi vedremo insomma come andranno le cose, ma lo sapevate, è una notizia, ma penso l'avete letta, perché che SEL addirittura nella grande coalizione democratica non vede male nemmeno Futuro e Libertà, pure quello si chiamano, de fini, insomma, no? E naturalmente è un fatto transitorio, no? Per un po', poi un governicchio di transizione, tanto per fare riforme elettorali e altre cose, e poi si va alle vere elezioni, in cui però per adesso tutto sommato SEL vede bene pure Fini, e a me mi viene in mente Valerio Verbano, che ci avrebbe avuto la mia età, avrebbe campato, insomma, invece è stato ammazzato dai fascisti, per quale cazzo di motivo avremmo fatto tutte queste battaglie nel passato, è dato di sapere, insomma, lo chiederei a sti signori, no? Vabbè, comunque concludendo insomma tutta sta parabola, cioè per me non è una lezione di oggi, è una lezione di sempre. Se i movimenti non hanno gambe autonome, insomma, quindi teoriche, politiche, organizzative su cui viaggiare, spesso, come succede anche a questo, vengono risucchiati, vengono strumentalizzati, vengono utilizzati per obiettivi che non sono i loro, obiettivi anche di carattere elettorale, e si riducono insomma ad attacchi a manifesti non propri, insomma. Dovrebbero darsi, voglio dire una parola proibita, un'organizzazione propria ai movimenti dei lavoratori, degli studenti, insomma. Perché se no, dico, se un esame sgonfia i movimenti, immaginiamoci il sole, se non li scioglie definitivamente, come è già successo nel passato. Boh, vi saluto e vi ringrazio. Grazie. Sì, ciao. Io volevo chiudere il discorso per non prendere ancora troppo tempo, ma insomma volevo ricordare solo alcuni passaggi che secondo me sono importanti, no? Perché il momento in cui Marchionne, la Confindustria e tutto l'arco dei partiti, tranne rarissime eccezioni, no, appoggiò sostanzialmente l'accordo che proponeva Marchionne, poi sottoscritto dalla UIL, dalla CISL e i vari sindacati gialli tipo UGL, eccetera, mentre tutti nel movimento chiedevano lo sciopero generale alla Camusso e alla CGIL, la Camusso non solo non proclamava lo sciopero generale, ma abbiamo poi visto e constatato che stava lavorando sotto traccia per ricomporre l'unità sindacale con la UIL e la CISL, cioè con coloro che stavano massacrando la FIOM, no? Alla Fiat. Questo documento esiste, cioè, quindi voglio dire, più che i fatti, no? Che vanno a come dire, determinare quella che è poi la vera volontà, la natura, no? Di un sindacato. Io non capisco che altro bisogna tirare fuori. Dobbiamo tirare fuori il documento, leggerlo qui, farlo leggere a tutti quanti. Io non credo che sia questo, no? La questione. Basta guardare quello che accade. Quindi è ovvio che quando si dice ma qui non è che ci potete tirare per la giacchetta, no? I Cobas ci dicono fate così, quegli altri ci dicono fate colà. Qui il problema è capire, ripeto, e ognuno faccia le sue analisi, ma poi arrivi a una conclusione e cerchi di capire se la CGIL della Camusso è un soggetto affidabile con cui si può interloquire o no. che gioco sta svolgendo la FIOM, no? Se è un gioco esclusivamente di carattere preelettorale, cioè di appoggio al SEL di Nichi Vendola. Che cosa farà Nichi Vendola? Perché allora Nichi Vendola, qui cerchiamo di chiarire alcune questioni. È una persona rispettabilissima, come lo è, che ne so, anche la Rosa Bindi o tanti altri. Ma il problema non sono le persone in sé. Il problema è che cosa propongono, che cosa vogliono fare, che tipo di programma hanno, no? E se i programmi che vengono eventualmente, poco dico io, esternati, perché io tutto sommato un programma del SEL, no, in termini di piattaforma elettorale non ce l'ho, se c'è vedrò di procurarmelo. Quindi sono quelli poi che qualificano e determinano, no, il fatto di capire se un interlocutore può essere un interlocutore affidabile, non affidabile, tattico o strategico. Quindi voglio dire, già il fatto che non si parli di riproporre un'alleanza, una coalizione di sinistra, affidabile o non affidabile che sia, qui ognuno può dare le sue valutazioni, no? Sganciata dal PD e dalla Margherita e da altri soggetti strani, insomma, che nulla hanno di sinistra, già questo secondo me ci riporta a rivivere un film già visto, no? Ricordiamoci cosa accadde con Rifondazione, che poi fu azzerata perché nel governo Prodi era completamente appiattita e subalterna al programma del PD. Ora, io personalmente certi film non li vorrei rivivere, e quindi dico anche agli studenti, cioè fate le vostre analisi, non dico che dovete prendere le nostre, ma fate le vostre autonomamente, indipendentemente, e cercate di capire se i soggetti con cui si va a interloquire come movimento degli studenti, no, vanno nella stessa direzione che volete voi o meno. Ecco, io adesso chiudo qua. No, vabbè, queste sono tutte sempre riflessioni di esperienze vissute di chi, non come a voi, ci ha avuto qualche anno in più. Purtroppo dovremmo pure ragionare quando pensiamo alle cose che già abbiamo passato, e magari avendoci una speranza diversa, qualcuno le dice per scampanare, però poi sta nella autonomia. Io proprio dall'esperienza che vi faccio, la domanda è questa che vi volevo introdurre per dire qualche altro giro di cose. Oggi si parla molto di sciopero, gli studenti sono andati a chiederlo alla CGIL, e la CGIL è quella che ha descritto Roberto. Se noi dovemmo fare la storia, l'AMA ai studenti venne, gli fece la prepotenza e fu cacciato. Cioè, voglio dire, non è che c'è tutta questa storia che di speranza, perché poi se la CGIL si chiede da tutte le parti uno sciopero generale, il giorno che lo farà la piattaforma sarà totalmente opposta a quella che tu speri. Io però penso che oggi c'è da ragionare sullo sciopero, che sia generale. Noi parliamo sempre di sciopero generale e generalizzato. Oggi ci sono milioni di persone che, se c'è uno sciopero, non possono partecipare. I migranti, i precari, i disoccupati, le realtà sociali che si mobilitano per l'ambiente, per l'acqua, per la casa, e sono categorie generali di persone che però poi noi le chiamiamo all'appello di generalizzare. La giornata di sciopero generale generalizzato, chiamiamola come dovrebbe essere, dell'indignazione, della rabbia, dell'incazzatura, della ribellione, dovrebbe essere promossa da tutte queste realtà. Non è solamente che se lo chiama la CGIL o lo chiamano i COBAS o lo chiamano l'USB, poi quella diventa la giornata generale. No, va costruita attraverso sta cosa, cioè ricordare gli scioperi generali come quelli degli anni 60, anche negli anni 70, no, è un fatto quasi romantico. Cioè oggi i livelli sono diversi. Se la CGIL oggi la CGIL proclama lo sciopero generale assieme ai COBAS, assieme all'USB, assieme ad altre organizzazioni del sindacalismo di base, arriverà sì e no a un'adesione del 7-8%. magari finisce con una gigantesca manifestazione festaiola, con corteo, una sfilata in una città o più città, e dal giorno dopo non se ne parla più. Invece bisogna creare una giornata che rimane come quella del, se anche romanticamente uno la ricorda, come quella del 14 dicembre, che lascia il segno, ha spostato più quella giornata che un mese di movimento. Ha fatto parlare dei problemi che voi avevate sollevato in un modo diverso che tutti i scioperi della Fiom e via dicendo. Allora, come si arriva a costruire questa giornata? Chiamiamola, io direi, gli darei un nome mio originale, la giornata dei forconi. Come la creiamo? Sì, le questioni sono tante. Le domande sono state tante, fra le e chiamate. Non per niente però. Semplici, diciamo. Ma intanto, rispondendo anche a chi ci ha chiamato, il mio discorso sul fatto di non cercare di attaccarsi e capire quale dei due sindacati c'ha ragione fra confederale di base nasce proprio dalla consapevolezza che i limiti sono grossi da entrambe le parti, perché la FIOM è la battaglia che sta facendo adesso anche a Mirafiori, a Pomigliano, sulle rappresentanze sindacali, è quella che i COBAS contro la FIOM e contro i sindacati confederali hanno fatto per anni, quando chi non firmava gli accordi era fuori dall'RSU. Questa cosa l'ha sostenuta la CGIL per decine di anni. D'altro canto, guarda le mobilitazioni di quest'autunno, anche al 14 dicembre, e scopro che i sindacati di base non ci sono stati, sono spariti, non hanno neanche aderito. E quindi dei limiti forse nelle dirigenze di entrambi le organizzazioni sindacali ci sono e sono grosse, ma come ci sono e sono grosse penso in qualsiasi organizzazione politica, e il sindacato è anche specchio di questo e viceversa. E lo spirito con cui Ettore ci parlava prima è secondo noi quello da ricercare. E lo dico subito, i riferimenti al 14 dicembre rischiano, è vero, di avere un che di romantico e quasi di restare un feticcio, però se si cerca di fare un po' un'analisi si capisce che forse è proprio quello spirito là che si ha, di cui si ha bisogno, anche se si fa riferimento a uno sciopero generale, perché appunto di scioperi generali che siano sfilate non ci servono. E su questo noi per esempio di recente prendiamo anche spunto dal dibattito che si sta sviluppando in Francia, dove hanno fatto scioperi generali tutt'altro, no? Che sfilate, e hanno veramente bloccato la produzione del paese e creato un disagio enorme alla popolazione francese, che però dava il suo consenso invece alla protesta. Quindi si era innescato un meccanismo più che interessante, che in Italia siamo ben lontani dal vedere, e che però non ha vinto, esattamente come non si vince in Italia quest'anno, non si è ancora vinto quest'anno in Italia su nulla. Sta imponendo ai compagni e le compagne francesi dei sindacati, le organizzazioni politiche, dei movimenti, delle riflessioni serie anche sullo strumento in sé dello sciopero generale, su cosa vuol dire generalizzarlo e l'efficacia che può ottenere. Noi a quel dibattito un po' vogliamo anche prendere spunto per ragionare le forme con cui giustamente Ettore, ma in una fase in cui il lavoratore dipendente non è più l'unica categoria lavorativa, in una fase in cui la città di Roma è attraversata più da studenti fuori sede, lavoratori nere, migranti, che non operai tutte blu come si viveva negli anni 60 e 70, lo sciopero come lo pratichiamo, come lo generalizziamo e soprattutto come facciamo danno alla produzione, alla classe padronale, come facciamo parlare di noi. Tutto questo nessuno penso che ci abbia la ricetta. Dopodiché però guardo agli ultimi mesi e, come diceva Ettore giustamente, guardo a una giornata, quella del 14 dicembre, che ha avuto anche pratiche che non si vedevano a Roma da 30 anni, in Italia da una decina, e che però ha lasciato molto più il segno, ha avuto anche straordinariamente, in maniera stupefacente, un consenso così largo e diffuso. A noi studenti spesso, quando ci riuniamo per fare collettivi eccetera, quasi ogni giorno c'è la frase di qualcuno che dice: non avete capito, sono stato sull'autobus, ho incontrato un tipo, un vecchio, qualcuno, eccetera, che mi diceva che il 14 dicembre dovevamo sfondare più cose, dovevamo andare ancora più avanti, dovevamo fare ancora più casino. E questa cosa sta succedendo a tutti noi. Torniamo a casa a Natale e scopriamo che gli amici dei nostri genitori, invece che dirci quanto siamo stati cattivi, quanto siamo terroristi, ci dice: avete fatto bene, dovevate sfondare di più. Questo non ci succedeva neanche nel 2008, cioè pure nel 2008 ci dicevano che eravamo stati troppo violenti e abbiamo fatto un quinto di quello che è stato messo in campo quest'autunno. Quindi forse il consenso intorno a delle pratiche anche più radicali sta crescendo, ci impone anche di doverlo coltivare. Per esempio, come possono, se rispondo banalmente, come possono generalizzare lo sciopero gli studenti? E noi, come studenti della Sapienza, per esempio, siamo a due passi da Termini. Una grande giornata di sciopero generale se si vuole come obiettivo veramente bloccare la produzione, agli studenti impone anche di bloccare per esempio la stazione di Termini. Nel nostro piccolo un po' ci abbiamo provato a Colleferro il 28 gennaio, un po' per forza di cose con l'aiuto di Trenitalia, diciamo che l'ha bloccata Trenitalia quella tratta, non tanto noi, però un po' è quello che abbiamo fatto per esempio il 30 novembre, e anche lì, quando poi noi dopo gli scontri di Via del Corso abbiamo bloccato Termini per 2 ore, il consenso che abbiamo avuto, ed è quello che poi Trenitalia ha dovuto combattere per esempio il 28 gennaio, quando in tutte le stazioni d'Italia lanciava il messaggio gli studenti occupano, gli studenti danneggiano i lavoratori, è lo specchio di quello che sta succedendo in questo paese intorno alle pratiche e alle forme di lotta, ed è quello che ci deve fare ragionare in futuro. Io intanto vorrei fare un passo indietro rispondendo alla domanda, ed è... diciamo, non vuole essere un discorso studentista, però le proteste studentesche di quest'autunno hanno funzionato piuttosto bene, cioè hanno prodotto anche un alto livello di conflittualità, anche perché tutte le strutture dei militanti del movimento studentesco sono riuscite a dialogare e a smussare un po' ognuno magari le sue posizioni per cercare di arrivare a una sintesi. E quindi diciamo che fino a dicembre il movimento ha marciato unito e proprio per questo è stato più forte. Poi so benissimo che non si può trasportare questo discorso con semplicità a livello di strutture sindacali, perché le divisioni tra strutture sindacali hanno una storia molto più lunga, molto più profonda di quelle che possono essere le divergenze tra i vari gruppi e i vari collettivi studenteschi. Però io questo è anche un appello che lancio, che comunque appunto tentare a volte anche di trovare una sintesi, di trovare una mediazione, perché comunque la battaglia che stiamo combattendo è troppo importante, cioè gli attacchi che stiamo subendo sono troppo forti, sono troppo generalizzati, per rimanere chiusi ognuno nella sua parrocchia a cercare di tirare solo ed esclusivamente acqua al suo mulino. Rispetto alla generalizzazione dello sciopero, fondamentalmente sono d'accordo con quello che diceva Luciano, nel senso che la convocazione di uno sciopero generale da parte della CGIL e di tutti i sindacati di base, secondo me è un presupposto fondamentale, non a livello di conflittualità ma a livello di partecipazione, perché garantirebbe a milioni di lavoratori la possibilità di scendere in piazza qualora lo volessero, visto il livello, appunto, come ricordava anche Luciano, anche il 14, che ha svegliato un sacco di coscienze, che invece di condannare la violenza, come gli veniva suggerito dai giornali, dall'opposizione, insomma dal PD, chiamiamolo opposizione, di condannare la violenza, invece in molti l'hanno supportata, anche solo magari a distanza, anche solo guardandola magari alla televisione. Quindi la voglia di scendere in piazza, c'è uno sciopero generale, garantirebbe una partecipazione secondo me altissima, dopodiché le pratiche e diciamo la volontà e anche le parole d'ordine politiche da portare in piazza, in quel senso dobbiamo generalizzarlo, il movimento studentesco, i lavoratori delle varie strutture, i lavoratori auto-organizzati, anche i comitati territoriali e tutti quelli che lottano contro le nocività, portare in piazza la conflittualità del 14, possibilmente ancora maggiore, e anche parole d'ordine che parlino di noi, che non parlino di appunto tornare a sedersi a un tavolo, ma che parlino di riprendersi con mano proprio concretamente quello che noi vogliamo e quello che stiamo dicendo chiaramente, cioè un lavoro vero, il diritto allo studio, fondamentalmente si può riassumere con una prospettiva per il futuro. Scusa, interrompo perché abbiamo una chiamata in onda. Pronto? Ciao, io volevo dire una cosa veramente telegrafica, cioè rispetto al discorso che si faceva prima su 14, sui Gobas e sulla FIOM. È vero che i Gobas, io non sono dei Gobas, assolutamente. È vero che i Gobas non c'erano il 14, non hanno, vabbè, lì era tutto un problema pure di lavoratori, di indizi, cioè comunque sicuramente io credo che non abbiano capito quello che c'era in gioco, e farsi sorprendere dai movimenti, seppure è una cosa diciamo che nella storia succede, però fa riflettere. Quello che voglio dire però è che non mi risulta che i Gobas abbiano fatto un comunicato di dissociazione, di presa di distanza, anzi di condanna di quello che era successo il 14, come ha fatto invece la FIOM, che se c'era lì, io vabbè non lo so come c'era e come non c'era, però certamente il comunicato l'hanno letto tutti, io adesso l'ho cercato, non l'ho trovato, ma sicuramente ce l'avete presente molto bene. E soprattutto che alle non ha mai fatto... Alle 16 del stesso giorno l'ha pubblicato. Esattamente, Ettore, esattamente, cioè proprio a caldo, no? Perché ci mancherebbe altro che qualcuno possa pensare, cioè se lo potevano risparmiare, non lo so, io credo di no, perché quella è tutta la loro prassi. La CGIL, comunque anche la FIOM, non ha mai fatto i conti con le sue prese di posizione, senza andare o andandoci, visto che l'anniversario è fresco, al 17 febbraio del 1977. Nel rispetto ai movimenti c'è sempre stato un comportamento molto chiaro, che si può sintetizzare tranquillamente in quel comunicato che citavo. Quindi non mi sembra che la FIOM, nella fattispecie, ci abbia intenzione di andare incontro ai movimenti nel senso che forse qualcuno può pensare. Cioè, ricordiamocelo quel comunicato, mi dispiace, non l'ho trovato, perché sarebbe importante rinfrescare la memoria a qualcuno, insomma, ecco, tutto qui, vi ringrazio, ciao. Okay, ciao. Okay, io volevo fare solo una piccola parentesi per poi lasciare spazio fino alla fine al dibattito con i nostri ospiti. Una, vabbè, semplicissima, proprio una frase, cioè il rischio di mettere sullo stesso piano il boia e l'impiccato è un errore gravissimo. Quindi quando uno dice fare chiarezza, deve portare pure a discernere i ruoli, insomma, no? Perché se uno fa il boia, non può essere che è uguale a quello che viene impiccato. L'altra questione che non riguarda direttamente questo dibattito che abbiamo oggi qui in radio, però secondo me è molto importante, perché è passata molto sotto silenzio, e riguarda la questione del via libera che ha dato il Senato alle spese militari, per cui qui hanno dato il via libera al rifinanziamento di tutte le missioni militari, quindi stiamo parlando di una cifra che si aggira intorno al miliardo di euro, quando poi per la ricerca non c'è una lira, no? E su queste tematiche qui, che secondo me bisognerebbe anche avere un atteggiamento attivo dei vari soggetti in campo, no? A parlare dai CGL, dai COBAS, dai studenti, eccetera, eccetera. Chiudo soltanto con una parola, ricordando alcuni versi di una canzone anarchica che dice: date fiori a ribelle che cade. Questo è dedicato a tutti i ribelli, i nostri compagni che ci hanno lasciato ultimamente. Abbiamo una chiamata in onda, pronto? Allora, volevo intervenire su un... Prima c'è stata una telefonata importante che non ha avuto nessun seguito, di una compagna che metteva in discussione e poneva il problema della conoscenza. Diceva che il movimento non si era posto questo problema. E secondo me questa è una cosa molto importante, nel senso che ciò che manca, secondo me, è la critica alla conoscenza, che è conoscenza astratta, al meccanismo di formazione, e creare appunto un'alternativa a questo. Cioè, questo passaggio secondo me è fondamentale in questa fase, nel senso appunto mettere in discussione il meccanismo di formazione, cioè la conoscenza che viene trasmessa, che in questa fase è una conoscenza astratta, cioè che poi c'è bisogno di formare individui astratti che siano poco, diciamo, concreti e costruttivi, e questo si vede nel momento in cui appunto te esci da questo meccanismo di formazione, entri dentro la realtà, ti vedi che appunto che non è solo un problema, diciamo, che di lavoro precario che non trovi, eccetera, eccetera, ma quando appunto te devi entrare nella realtà e cioè intervenire, vedi che appunto che i processi di formazione che ti hanno dato sono completamente astratti. Per dire, che ne so, in medicina cioè il medico cioè è formato per esempio a costruire i livelli, diciamo, la diagnosi non c'è più il rapporto col paziente, diciamo, diretto, ma è tutto basato attraverso appunto le analisi, il meccanismo delle analisi, e non c'è più appunto un rapporto diretto fra medico e paziente, cioè vieni portato appunto lontano dal rapporto col paziente e con la diagnosi stessa, per esempio. Questo è un problema, che ne so, rispetto al problema dell'architettura, sai, negli studi, poi sul cantiere, appunto, il rapporto diretto, diciamo, col lavoro, cioè vieni portato appunto lontano, cioè appunto c'è un meccanismo di formazione che tende a formare individui astratti. Pronto? Sì, va bene. Questa cosa, secondo me, questo passaggio è un passaggio fondamentale, prima cosa. Seconda cosa, volevo raccontare il problema del rapporto operai-studente. Potresti sintetizzare, se no qui dico, capito? Sì, il rapporto operai-studenti è la nascita dell'autonomia operaia in Italia, e molti non sanno che quando c'è stata, diciamo, prima dell'autunno caldo, la fase appunto di nascita dell'autonomia, soprattutto a Torino, ci fu un gruppo che partì da Roma, di studenti universitari, un po' di lettere, un po' di matematica, un po' di fisica, che partì da Roma e andò a costruire tutto un lavoro, appunto, rafforzando le assemblee operai studenti di Torino e portando avanti un intervento diretto davanti alla Fiat. E da lì nacque Corso Traiano, nacquero appunto le assemblee operai studenti e nacque l'autonomia, soprattutto costruendo, diciamo, un tipo di intervento diretto e abbastanza, diciamo, innovativo. Proposero appunto insieme a delle avanguardie operaie che sono nell'assemblea operaia studenti gli aumenti uguali per tutti in paga base, cioè cose che in quella fase lì erano completamente innovative, e questo determinò appunto la nascita in pratica dell'autonomia operaia, che non è un gruppo, diciamo, politico, uno schieramento politico, ma nasce appunto come uno schieramento sociale costruito da operai, ma anche da studenti. E questo meccanismo nacque, cioè tutto questo gruppo partì da Roma, e a Roma cominciò anche appunto un intervento degli studenti universitari che andavano davanti alla FATME, davanti alla Selenia, davanti all'Autovox. Queste cose appunto non si sanno e bisogna farle sapere, perché appunto quello che va ricostruito è questo meccanismo. Vabbè, rispetto a Uniti contro la crisi, secondo me in questa fase, mi riallaccio al discorso che facevo prima sulla conoscenza, e la cosa che manca e che è fondamentale non è essere Uniti contro la crisi, ma costruire un'alternativa alla crisi. Su questo, secondo me, appunto, e il fatto che l'università diventi un laboratorio di costruzione di alternativa alla crisi è fondamentale, è un passaggio fondamentale, però per questo bisogna andare a criticare la conoscenza e creare appunto un meccanismo di conoscenza diverso, cioè che l'università diventi un laboratorio sociale per costruire un'alternativa alla crisi. Vi saluto. Ciao, grazie. Sì, prego. Un attimo concludere l'intervento di prima sulla generalizzazione dello sciopero, una suggestione brevissima che mi veniva sempre dal 14 dicembre, che appunto, pur non essendo una giornata di sciopero, perché era una manifestazione e non una giornata di sciopero, generalizzare lo sciopero può voler dire anche quello che hanno fatto i cittadini dell'Aquila, che dopo mesi di vessazioni e di prese in giro sono venuti al corteo a Roma e hanno preso come obiettivo la sede della Protezione Civile e l'hanno sanzionata in maniera, direi, anche abbastanza decisa e determinata. O penso ai cittadini di Terzigno che si sono portati i sacchi della spazzatura da tirare contro il cordone dei carabinieri. Queste sono due suggestioni, e ovviamente non vogliono dire che queste non sono in sé elementi di sciopero generale, però lo sciopero generale e generalizzato è anche deve essere anche questo, cioè ogni realtà che partecipa allo sciopero, ogni realtà sociale, che possono essere più varie, che partecipa allo sciopero deve portare un suo contributo, e generalizzare lo sciopero secondo me vuol dire fondamentalmente questo. Va bene, ok, insomma le argomentazioni sono tante e naturalmente noi abbiamo ancora 20 minuti per continuare a parlare. Io vorrei cominciare a, a discutere anche delle iniziative che mettiamo in campo. Però abbiamo, abbiamo una chiamata che stiamo attendendo e poi andiamo a, a concludere con questa parte qua. Pronto, se no. Una cosa sola pure per gli altri ascoltatori, prendiamo sta telefonata e poi chiudiamo, perché se no non riusciamo a concludere qui di studio. Va bene, buongiorno, sono Nubi, innanzitutto ringrazio i compagni, gli vengo anch'io, perché stanno tessendo un filo di confronto che c'è sostanzialmente, diciamo, in questa forma solamente durante queste ore di trasmissione domenicale a Radio Onda Rossa, e credo che questo dovrebbe essere un primo dato da trarre, perché questo spazio di confronto e questo, questa latitudine di confronto rispetto a, al da farsi oggi, alla questione del movimento, del conflitto oggi a Roma non, non si dà altrove. È un primo punto che credo dovrebbe essere all'attenzione di tutti i compagni che poi intervengono in un'articolazione di discussione come questa. Non mi va ovviamente di interloquire in maniera, come dire, men che orizzontale con gli studenti che intervengono per esempio nella puntata di oggi, però io credo che delle lezioni vadano tratte, cioè un nostro continuo ritorno, no? Sulla, sulla giornata del 14 dicembre. Io penso che dal 14 dicembre è passato qualche tempo e che, come è stato osservato giustamente anche stamattina, anche in questa puntata di trasmissione, alcune lezioni vanno tratte. Allora, siccome oggi si parla dal punto di vista studentesco, dal punto di vista universitario, forse è il caso di ricordare che anche nel dicembre del 2008 l'Onda, diciamo, lasciò sul terreno una promessa di continuità che poi si è data giusto due anni dopo con il movimento delle, degli ultimi mesi dell'anno scorso e il passaggio che tutti qui riconoscono, diciamo, di soluzione di continuità con anche le settimane precedenti del 14 dicembre. Allora, quando si rilancia a valle di una giornata di quel genere un'ipotesi di continuità che si dà su terreni programmatici, su le rivendicazioni di un nuovo welfare o di un welfare metropolitano, rivendicazioni giustissime che tendono, diciamo, a confrontarsi col problema posto dal 14 dicembre, poi vengo dopo a questo. E quando si, ci si lascia così, come ci si lasciò nelle università, in particolare alla Sapienza, dopo quella combattuta Assemblea Nazionale a fine 2008, con analoghe, diciamo, aspettative, poi bisogna anche misurare in qualche modo le linee di continuità effettive. Ora, tutti sappiamo che ci si continua a muovere dentro l'università così come ci si continua a muovere su tutti i terreni di conflitto, però è del tutto evidente che nel tempo che ci separa oggi da quella giornata del 14 dicembre c'è qualcosa che continuità non si è dato, e cioè esattamente quel terreno comune di continuità di movimento in senso generale, in senso di conflitto dispiegato, che tutti hanno riconosciuto come saliente del 14 dicembre, come qualcosa che ha fatto irruzione al di là della programmazione della giornata, al di là delle intenzioni di gestione della giornata, eccetera eccetera, che ha deluso e impensierito tanti, come si diceva prima, che ha creato anche invece simmetricamente tanta aspettativa. E però quel terreno dov'è oggi? Quali sono stati i passaggi di continuità? Anche dal punto di vista, diciamo, del soggetto che in qualche modo era stato il veicolo che aveva portato a quella giornata, il soggetto specifico della lotta specifica, con tutte le sue caratteristiche di evocazione di generalità, il conflitto sulla formazione, il conflitto sul rapporto tra la formazione e la produzione, il conflitto sul rapporto tra il cascame e le politiche neoliberiste e l'accesso a beni comuni, al comune dei saperi, di una cooperazione linguistica, di, della conoscenza, dell'intelligenza sociale collettiva, insomma, su su cui sono stati prodotti tanti discorsi. Il 22 dicembre sicuramente alcuni aspetti di quella generalità e di quella capacità di estensione di conflitto si sono dati nelle forme e nelle pratiche con cui si è bloccato per esempio il sistema dei flussi in questa città e non solo in questa città. Poi si è data anche però una produzione di discorso che si è fatta catturare dentro la fotografia di un'udienza al Quirinale. Il 28 di gennaio c'è stato lo sciopero categoriale della FIOM, pur carico di tutti gli elementi di piattaforma che la vertenza Marchionne aveva posto, che la volontà di Uniti contro la crisi di farne un passaggio generale aveva posto, pur vedendo la convergenza autonoma dell'indizione di una giornata di sciopero generale generalizzato da parte di Cobas, e anche qui non stiamo a ritirare le somme e le misure che sono già state in qualche modo elencate prima. E questi elementi di continuità di un terreno di movimento non si sono dati. Allora, a Roma abbiamo molti problemi di relazione non solamente fra organizzazioni politiche e sindacali, ma appunto fra situazioni di movimento. Probabilmente ce li abbiamo in generale nel paese, e però bisognerà anche stare alle cose dette e alle cose che in qualche modo tracciano appunto un comune. È stato detto il 14 dicembre, è emerso qualche cosa che andava al di là del punto di vista studentesco e del punto di vista della battaglia sulla conoscenza. È stato detto che lì dentro si è manifestata la rabbia di una generazione precaria. È stato detto che lì sono state fatte saltare, diciamo, le meccaniche di controllo dentro una crisi della rappresentanza politica e una crisi dei dispositivi politici. Benissimo, come si fa a rintracciare quel filo? Certamente non aggirandolo, certamente non ritornando ognuno sul proprio specifico e ognuno pensando che una somma, una sommatoria, un'elencazione, una semplice serie di collegamenti possa riprodurre l'occasione. Questo non si dà. Una volta che è stato detto qualche cosa, una volta per tutte, come il 14 dicembre, la misura successiva è esattamente l'adeguatezza a questo spartiacque. Tutti noi credo ci dobbiamo misurare rispetto a questo. Tutti noi dobbiamo sapere che l'agenda, come è stato accennato, è molto difficile, si rende sempre più complicata. C'è una cattura dentro una dinamica politica che è appariscente per tutti, c'è l'incombenza di passaggi elettorali. Come si fa a ridare la fiducia dal basso non solo al governo Berlusconi, ma a questa fase storica, diciamo, delle forze di comando, delle forze di potere nel paese? Come si fa a ricostituire quella democrazia del tumulto che è stata tanto decantata e darle continuità e consentirle di organizzarsi? O noi ci riconfrontiamo sui passaggi in cui è possibile tornare a ridispiegare quella forza, o altrimenti noi rischiamo di fare, diciamo, della filosofia critica, ognuno appunto dal proprio cantuccio, su un'occasione che abbiamo afferrato per un giorno, che ha depositato sicuramente una verità, ma a cui non siamo adeguati. Allora, io penso che tutti dovremmo fare uno sforzo, parlo per quelli che hanno provato a riflettere esattamente sugli elementi centrali che tutti hanno riconosciuto nel 14 dicembre, nelle settimane successive, e con percorsi a Roma poco vissuti, a Milano sicuramente più insediati, hanno provato a riconfrontarsi rispetto al paradigma della precarietà e hanno posto il problema non già dello sciopero generale generalizzato detto così, ma di uno sciopero politico, cioè della costruzione dal basso e nelle relazioni di movimento di una convergenza per realizzare un passaggio politico di rottura, costruirlo insieme, costruire uno sciopero politico contro la precarietà, risaldare su quell'elemento che è apparso centrale il 14 dicembre, che è centrale nelle politiche di comando e nelle politiche di sfruttamento, in particolare in una latitudine come la nostra, priva di strutture di welfare, priva anche di aristocrazie operaie e dell'impiego come altri paesi europei, diciamo, e che quindi usa la precarietà in maniera generale come elemento di governo delle forze di lavoro e come elemento di governo della crisi, dentro la crisi. Abbiamo provato a ragionare su un passaggio di questo genere e questo passaggio è stato riproposto, è un tema di discussione che rimane offerto in maniera aperta, così come offerta in maniera aperta sarà l'occasione di dibattito che si realizzerà quando si ricostituiranno qua a Roma, dopo i due appuntamenti di Milano, gli stati generali della precarietà, esattamente ed esclusivamente per discutere di uno sciopero politico contro la precarietà, in cui tutti possono fare la loro parte, non solamente, diciamo così, gli elementi di movimento dentro categorie sociali, ma anche le strutture organizzate. Serve che ogni sindacato di base proclami ognuno diversamente, in un mese diverso, uno successivamente all'altro, uno sciopero generale generalizzato, oppure serve che sul blocco dei flussi, su come bloccare la circolazione, su come bloccare la mobilità, su come far male alla produzione concreta, chiudo qua, dei profitti in questa fase, chi lavora ed è auto-organizzato dentro il settore dei trasporti cooperi e cospiri insieme a chi è caduta da sola la linea, non l'abbiamo chiusa noi, no, anche se i tempi ci stavo sollecitando alla chiusura. Venga anch'io a intrapreso questo ciclo di incontri così tramite i microfoni, sarebbe il caso che ci fossero questo tipo di incontri più aperti. Beh, per esempio, tanto per ricordare, il 26 al cinema Colosseo, no? Al teatro Colosseo, no? Teatro, non mi ricordo esattamente l'indirizzo, c'è un'altra assemblea di autoconvocati, di lavoratori, RSU, di tutte le organizzazioni sindacali, no? Di realtà sociali sparse, anche lì con questa prospettiva della generalizzazione. Assemblea nazionale, ieri si sono viste a Bologna, sarebbe il caso che queste cose cominciassero a diventare più aperte possibile, più partecipate possibile. Ieri c'è stata, almeno locale, una manifestazione contro il sindaco di Roma per tutte le nefandeste che questo comune sta facendo a questa città, che va dalla Parentopoli, no, ma no, alla fascistizzazione dei posti di lavoro, in poche parole, perché hanno selezionato 4.000 fascisti per imboscarli dentro questi posti di lavoro. Le città degradate, senza case, la speculazione edilizia. Bene, si prosegue con questa mobilitazione il 23 coi stati generali, l'assedio, che siano queste le occasioni in cui concretamente si vede la cosa. Il confronto che la radio sta facendo con questa trasmissione serve a questo. Noi proseguiremo, dovremmo avere domenica prossima quelli che stanno preparando le giornate, diciamo, contro i stati generali, dovrebbe venire e confrontarsi con loro. Noi proseguiremo questa attività di confronto, ma vorremmo che questo confronto uscisse fuori dalla radio e si farebbe tra le realtà più o meno che si stanno organizzando. Scusa, no, purtroppo è caduta la linea sull'intervento di Anubi, che comunque era un intervento, insomma, che condividevo nella maggior parte della sua analisi, e che ci siamo detti comunque molte volte, no, su come dare continuità a determinati momenti in crescendo, si spera, insomma. Purtroppo non abbiamo molto tempo, io volevo andare a chiudere su un'iniziativa che stiamo preparando in università, che appunto è un'iniziativa che cerca di dare continuità a determinate a determinate cose, alla lotta degli studenti insieme ai lavoratori e quant'altro. Insomma, naturalmente le problematiche dell'intervento di Anubi e tutte quelle che ci siamo dette oggi, insomma, sulla generalizzazione dello sciopero e più che altro su come generalizzarlo, sono naturalmente aspetti che devono vedere un dibattito, diciamo, più grande, che vada oltre naturalmente la radio, giustamente negli ambiti inerenti le assemblee, insomma, che si facciano assemblee anche di riflessione, non solo di indizione, di lotta, perché comunque la riflessione in questo caso è il momento, insomma, più adatto per poterlo fare. Magari il fatto che ci siamo mossi senza sedimentare qualcosa è indice del fatto che comunque abbiamo raccolto magari la voglia, la volontà dei cittadini e dei compagni di fare qualcosa, ma appunto non abbiamo sedimentato molto invece rispetto all'analisi e ad una continuità di una lotta e di vincere magari qualcosa, ecco, magari. Però vabbè, purtroppo mancano 5 minuti, anzi abbiamo già finito il tempo, però io volevo andare a chiudere sull'iniziativa che stiamo facendo in università insieme ai lavoratori della Sapienza. No, abbiamo sempre parlato di solidarietà fra i lavoratori eccetera eccetera, però fino adesso magari non l'abbiamo fatta proprio con chi alla Sapienza ci lavorava, insomma, no? Quindi questo qua è un ulteriore passaggio di sedimentazione di qualcosa. Cioè, lo dico molto, molto umilmente, perché per ora insomma si sperimenta molto, ecco. E quindi questa qua è un'ulteriore iniziativa che facciamo. Perché? Perché insomma in università le ricadute della riforma Gelmini e soprattutto della legge Brunetta sul pubblico impiego e nella particolare della Sapienza dello Statuto Frati hanno, cioè, cominciano ad avere i propri effetti che già noi enunciavamo da tempo, che gli studenti enunciavano da tempo, ma non da ora, ma da anni e anni, insomma. E perché diciamo questo? Perché insomma in università alla Sapienza si è applicato il nuovo accordo integrativo aziendale firmato da CGIL, CISL e UIL, che ha portato a determinate cose, insomma, anche e in questo caso la CGIL sta dalla contropace, fa parte dell'altro fronte, insomma. E in sintesi, dico solamente in sintesi i punti dell'accordo integrativo aziendale della Sapienza. Praticamente c'è una perdita in busta paga per i lavoratori a seconda delle tipologie di orario, ma si parla di 150 euro in media di perdita, quindi una grande somma da questo punto di vista al mese. Poi l'aziendalizzazione dei parametri organizzativi del lavoro interni alla Sapienza, quindi la strutturazione intorno ad obiettivi di produttività, la creazione di team di scopo, insomma sembra stare un po' a Fiat, però parliamo della Sapienza in questo caso. Poi l'uso discriminato e illegittimo degli straordinari, che vengono resi anche lì obbligatori, e l'aumento del peso del salario accessorio, quello legato alla produttività, e in questo, cioè, questa cosa qua comporta agli studenti, oltre alla riforma Gelmini, comporta naturalmente dei servizi come la chiusura anticipata dei locali dell'università, la chiusura delle biblioteche, degli uffici relazioni col pubblico, le segreterie eccetera eccetera. Questo vabbè, lo dico io in sintesi, poi magari lascio la parola. Scusa, era per precisare, no, perché abbiamo già la CGIL... finito, Ettore, perché già... Sì, ma finiamo, i 5 minuti ci possiamo allungare, perché quello non è solo l'accordo tipo Fiat, ma è quell'accordo dove c'è la schizofrenia della CGIL, che è lo stesso che non ha firmato l'altro giorno al governo a livello nazionale, e stanno applicando la legge 150 di Brunetta, cioè le contraddizioni della CGIL, quando noi diciamo perché ce l'abbiamo e bisogna capire, perché questi sono talmente schizofreni che a livello nazionale non hanno firmato, la CGIL proclamano sciopero nazionale del pubblico impiego, pertanto pure per l'università, e localmente firmano questi accordi. Non solo le firmano, ma le sostengono questa situazione. Ecco qual è la contraddizione quando dico che ci vuole una nuova forma di sciopero generale generalizzato, che va proclamato in modi e forme diverse, se no parlare di sciopero generale è quella romanticismo che noi ricordiamo, che prima dell'insurrezione si chiamava sciopero generale. Oggi purtroppo non è così, ma noi dobbiamo creare quelle condizioni. No, finisco su rispetto agli aspetti di analisi, insomma, che comporta l'approvazione dell'accordo integrativo sulla scia della legge Brunetta e dell'accordo separato, appunto, come ricordava Ettore, del pubblico impiego firmato da CISL, UIL e Lega Nazionale, che però la CGIL applica alla Sapienza. E questa cosa mischiata, mista in alla riforma Gelmini e alla sperimentazione che ha fatto Frati rispetto alla riforma Gelmini stessa, provocherà insomma un aumento delle tasse, visto l'arretramento dei finanziamenti ordinari e il taglio dei finanziamenti ordinari. Poi naturalmente c'è tutto il problema delle borse di studio e delle case dello studente, problema annoso che ho adesso, insomma, le borse di studio sono praticamente, insomma, cose che non si vedono più, non si conoscono neanche più. Io ci ho studiato con la borsa di studio, però insomma, e neanche tanto, perché poi ce l'hanno tolta. E l'ingresso, naturalmente, cioè l'ingresso obbligatorio dei privati dentro l'università, addirittura si comincia a parlare di Unicredit alla Sapienza, e come una delle tante, poi anche Alenia, se non mi sbaglio, cioè Finmeccanica, insomma, comincia anche Teleton, che fra l'altro è amministrata da Montezemolo, quindi ricordiamoci che insomma cominciano ad entrare queste cose qua. La creazione di Frati delle nuove facoltà, ricordiamo che non esistono più, ricordiamo agli ascoltatori, non esistono più le facoltà per come le abbiamo conosciute fino ad oggi, ma sono state accorpate in macro facoltà, quindi per esempio sociologia non esiste più, adesso si chiama facoltà di scienze sociali, politiche e sociali, che ha messo insieme la facoltà di sociologia, di scienze politiche, di scienze della comunicazione, ma è successo questo anche per le altre università, per le altre facoltà. Insomma, questi sono degli elementi che potrebbero far nascere alla Sapienza una nuova stagione di conflitto insieme ai lavoratori stessi della Sapienza. Naturalmente la cosa è molto parziale, no, però è da queste parzialità che si compone una vera unità di movimento, e da queste cose materiali che riusciamo a sedimentare, magari ci riprendo l'intervento di prima, cioè a sedimentare delle cose che comunque toccano i problemi reali degli studenti e dei lavoratori là dentro, perché altrimenti rischiamo sempre di appellarci alla generalità, alla complessità, seppur giusta, per carità, però a volte ci andiamo a scollare da quello che è la percezione del reale e della materialità da parte dei soggetti che vivono poi alla fine quelle cose là. E guarda, io ti lascio la parola, Mattias, anche a te, Luciano, per le ultime battute e insomma anche di questo. L'assemblea, concludo, si farà alla Sapienza giovedì 24 alle ore 11:30. Ci sarà l'assemblea sindacale dei lavoratori, quindi contando dei permesso sindacale, a cui parteciperanno anche gli studenti per costruire una piattaforma condivisa che noi abbiamo già proposto. E per rimodularla, assestarla, insomma, e cominciare a fare proprio una piattaforma nuova che è un coordinamento fra lavoratori e studenti, si spera continuativo e coordinato nel tempo, che porti ad una vertenza di un certo tipo, ma che si pone comunque in un piano di non arretramento rispetto a tutte le cose successe. Quindi cioè, cerchiamo di, cioè, l'assemblea vuole darsi una continuità in avanti rispetto allo scorso autunno, che comunque vada a vincere poi sull'applicazione reale della riforma Gelmini. L'ultima nota la leggevo oggi da un sito: nella provincia di Pisa sono state bloccate tutte le sperimentazioni della Gelmini su tutti i 133 istituti della provincia di Pisa. Questo qua attraverso una lotta dei Cobas, per esempio, però insomma i segnali cominciano, insomma, la nuova cioè la non applicazione della Gelmini può cominciare a diventare una parola d'ordine reale per il prossimo movimento. Allora, intanto sono contento di questa notizia da Pisa, che non sapevo, che essendo la mia terra d'origine, insomma, mi... Si sentiva. Sì. Mi fa piacere. A parte questo, appunto, dicevi te giustamente che se si parla così tanto di unione tra lavoratori e studenti, non possiamo non iniziare dal nostro luogo di azione sociale e politica, che è l'università, a crearla, questa unità concreta, fattuale, che possa partire dalle vertenze per portare anche a un discorso più generale. Quindi questa assemblea è importante perché i lavoratori sono toccati in modo molto duro, come ricordava Dario, dall'accordo integrativo, soprattutto tra Sapienza e lavoratori, perché ci saranno, a parte riduzioni addirittura direttamente in busta paga, ma poi un'introduzione della gestione aziendalista dell'università, quindi con la premialità individuale e varie altre forme che vanno a stravolgere, diciamo, quello che è un po' il lavoro nel settore pubblico. E questo ovviamente tocca direttamente i lavoratori, i loro diritti, il loro modo proprio di lavorare, e tocca gli studenti perché ovviamente tutto ciò si ripercuote in tagli a servizi essenziali, come sono le biblioteche, le aule studio, gli spazi in cui poter usufruire dell'università e di esserne anche, diciamo, protagonisti. Mancano proprio gli spazi, a scienze politiche in particolare, dove ci sono anche dei lavori in corso, non ci sono neanche davvero aule per studiare, c'è gente che studia in corridoio, gente che gira per le altre facoltà in cercare un posto a un tavolo, siamo a questi livelli qua. E quindi costruire insieme ai lavoratori innanzitutto delle vertenze per ottenere delle vittorie magari piccole, magari che vadano, diciamo, che si dilazionino nel tempo, ma che diano fiducia nel fatto che la lotta possa pagare, che la lotta possa portare a dei risultati. Questo sarebbe sicuramente molto importante. Vertenze che possono essere su varie questioni. A me viene in mente, dal lato studentesco, ovviamente quella sulle tasse, perché sicuramente ci sarà nei prossimi mesi, a un certo punto, un consiglio di amministrazione in cui si deciderà un innalzamento delle tasse, e quello è un luogo dove si spera di aver costruito con queste assemblee un terreno per cui andare concretamente a delegittimare del tutto questo percorso, cioè questo aumento delle tasse, e a portare la nostra voce insieme a quella dei lavoratori. E questo è solo un esempio delle mille lotte che si possono fare dentro la Sapienza. A tutto questo va accompagnato poi ovviamente un discorso di rivendicazione politica più generale, per non stare solo su un piano difensivo, su un piano resistenziale, ma per portare anche una proposta di alternativa. Quindi possiamo parlare, perché no, di università pubblica e gratuita, anche perché le tasse universitarie, per quanto ce le aumentino costantemente con la scusa che non ci sono soldi, incidono solo per circa il 20% del bilancio di un ateneo. Quindi è inutile che ci dicano, cioè, sul singolo studente i 300, 400, 500 euro di aumento sono un aumento drammatico, ma sul bilancio dell'università pesano pochissimo e quindi sono pressoché inutili. Oppure possiamo anche allargarci, ovviamente andare al di fuori delle rivendicazioni del mondo universitario, e parlare, che ne so, di difesa della sanità pubblica o dei trasporti o di mille altre cose, cioè iniziare a riproporre quello che è un po' il modello di società che vogliamo noi. Tutto questo accompagnando invece avvertenze concrete che ci mantengano, diciamo, sul terreno della realtà e non ci facciano volare, diciamo così, troppo lontano. E questo per contrastare, secondo me, fondamentalmente due concetti che vanno debellati dall'università in generale, dal mondo del lavoro e dello studio, che sono dal lato del lavoro l'efficienza e la produttività, e dal lato dello studio la meritocrazia. Sono concetti che vanno assolutamente smontati, perché sono proprio quelli che invece stanno cercando di introdurre, e quindi appunto con i lavoratori costretti a competere tra di loro per ottenere maggiori premi, un salario maggiore o semplicemente possibilità di carriera, in nome della famosa produttività, che sembra tanto proprio ricopiata dal modello Marchionne. E la meritocrazia, io parlo appunto conoscendo meglio anche la questione dal punto di vista dello studente, semplicemente dicendo ma quale, cioè dov'è, com'è possibile, cosa state dicendo con la meritocrazia quando io non c'ho neanche un tavolo per studiare, quando devo pagare migliaia di euro di tasse all'anno, quando le biblioteche, cioè io non posso prendere i libri perché le biblioteche non si sa manco quando sono aperte. Questo, cioè, proprio la meritocrazia è una parola, cioè secondo me è un concetto proprio, si smonta anche facilmente. Perché dove puoi, cioè, un concetto ovviamente già sbagliato e aberrante di suo, ma salta proprio all'occhio come sia un'assoluta presa in giro di fronte alle condizioni in cui sono messi gli studenti, le condizioni di partenza in cui sono messi gli studenti. Non può esistere alcun discorso del genere sulla meritocrazia. Io provo a essere telegrafico, che vedo che siamo ampiamente fuori. E, no, per quanto riguarda la partita adesso dentro e fuori dall'università, sicuramente l'applicazione della Gelmini è il primo terreno di lotta e di confronto all'interno delle facoltà. Già abbiamo cominciato a farci conti, appunto, allo Statuto Frati è il precursore della riforma, è il primo ateneo che praticamente di fatto ha una riforma già applicata e da dover limare e rendere compatibile con quella della Gelmini. Quindi è evidente che quello è il nostro primo terreno di battaglia, come lo saranno un'eventuale richiesta di una moratoria sulle tasse che dovranno essere alzate in tutta Italia se gli atenei non vogliono fallire, e già stanno fallendo in realtà. Ma è evidente che, appunto, per riprendere un po' il filo di tutta la discussione di oggi, di stamattina, la partita più grande è imprimere un cambio di marcia a questo governo, farlo cadere e porre le premesse per una conflittualità sociale che duri negli anni. Probabilmente il mese di marzo potrà essere un periodo in cui porre le basi per tutto questo, visto che è ricco, abbiamo almeno un corteo, in media un corteo e mezzo a settimana già previsto fra sindacati di categoria, corteo dell'acqua e mobilitazioni più o meno locali e più o meno parziali. Però l'auspicio che ci facciamo noi, anche come Atene Rivolta, è che da aprile si possa cominciare a immaginare anche una data di mobilitazione, visto che forse anche le stesse assemblee, gli stessi momenti di incontro rischiano di essere un po' troppo rituali e cose già viste e riviste. Forse il terreno di unità può essere veramente la piazza, e pensare che ad aprile ci sia un'altra dinamica di piazza, facciamo di nuovo riferimento al 14, ma non tanto nelle vetrine spaccate, ma nell'intento che c'era, nella voglia che c'era di praticare un obiettivo, di imporre e di fare valere un'alternativa rispetto agli intrighi di palazzo che governano questo paese, visto che tra l'altro ad aprile, il 6 aprile, potrebbe anche andare a processo il Premier. Immaginarci che ad aprile si ripensi una dinamica di mobilitazione reale di piazza come è stata quella di quest'autunno e che da quella si riparta e che a quella tutti puntino, deve essere un po' l'auspicio che ci facciamo. Io poi l'invito che faccio a chi, agli studenti e studentesse che sono in ascolto, è a cercare i collettivi, le assemblee nelle facoltà che non hanno smesso di riunirsi neanche a gennaio febbraio, quindi di cercare di continuare la mobilitazione, di mantenersi informati, e su questo auspicio spero che da marzo possano ripartire anche delle dinamiche assembleari più larghe col finire degli esami e che dentro la Sapienza si ricominci a innescare una discussione più pubblica. Bene, noi andiamo adesso andiamo verso la conclusione, intanto perfettamente a quello che dici tu, però intanto ci stanno questa settimana, per esempio, gli studenti partecipare in massa al ricordo di Valerio Verbano, studente ammazzato dai fascisti. Ecco, questi qua, e l'appello è le scuole superiori e l'università, che si mobilita, che non è solo il ricordo dei compagni che lo conoscevano. Già da anni è un corteo molto attraversato, ecco, dagli studenti. Perciò io, intanto, primo giorno, secondo giorno, il 23, l'assedio ai stati generali di questo disputa di Alemanno, che c'ha tutta una condizione veramente mafiosa, camorristica, non lo so come definirlo, che se lo fa l'altarino invitando e Berlusconi, invitando Tremonti, invitando quelli che ci stanno dando ste mazzate. È ora di fargli sentire che c'è un'altra parte che non ci sta più. Pertanto il 23 è importante che ci sia questa partecipazione per lavorare a quello che dici tu. Attraversiamo tutto quello che avviene, che sta avvenendo, ma però di trovare quella condizione di sintesi morale, diciamo, del 14, almeno quella condizione. Questi confronti, ecco, il 24 è un'altra occasione dell'assemblea di partecipazione, non solo studentesco, ma anche dei lavoratori che non sono coinvolti all'interno della Vertenza Università, ma i lavoratori in generale del pubblico impiego, a dare un contributo a questa situazione. Pertanto noi mo adesso sono le 2:20. Beh, no, andiamo solo con gli appuntamenti. Solo a dare appuntamenti. Sì. Andiamo in ordine. Il 22 martedì naturalmente ci sarà il corteo per Valerio Verbano, alle ore 16 un fiore per Valerio sotto la lapide in via Montebianco 22, alle ore 17 il corteo cittadino che partirà sempre da sotto la lapide in via Montebianco 22, ripeto l'indirizzo, poi la sera alle ore 20 musica e teatro con Militantà, attrice contro e poi anche Ulderico Pesce presso la palestra popolare. Poi il 24 alle ore 11:30 ci sarà questa assemblea fra studenti e lavoratori della Sapienza a Geologia. Poi il giovedì 24 sempre la mattina alle 9:30 ci sarà il presidio contro Radio Vaticana, visto che ci sarà la sentenza della Corte di Cassazione a Piazza Cavour. Poi venerdì 25 ai Castelli Romani ci sarà il presidio per la portabilità dell'acqua contro l'arsenico nell'acqua. E poi il 26 c'è l'Assemblea Nazionale dei lavoratori autoconvocati al teatro Colosseo, se non mi sbaglio, però comunque risentiremo questa settimana e daremo spazio sia all'assemblea fra lavoratori e studenti sia dagli autoconvocati martedì Valerio Verbano. Insomma, vabbè, andiamo in chiusura e diamo appuntamento a domenica prossima, che dovrebbe, se non ci danno la buca, partecipare, diciamo, i blocchi precari metropolitani, lotte da casa, continuiamo il confronto. Il nostro confronto è una delusione, la voglio dire. Tutte le domeniche viene qualcuno e ci porta la sottoscrizione. Oggi non è venuto nessuno. Quindi ricordiamo il conto corrente. A sottoscrizione, ricordiamo che c'è il conto corrente postale 6180401 intestata a Redonda Rossa, via De Voci 56. Sottoscrivete per poterci permettere, insomma, di continuare questi ambiti di discussione di movimento e poter parlare con molte persone da uno strumento come la radio, una radio naturalmente di parte, che è Radio Onda Rossa, partigiana, e va bene, insomma, ci autogratifichiamo un pochino, visto che i dibattiti sono seguiti. Oggi abbiamo addirittura bloccato, hai chiamato un quarto d'ora prima perché il telefono continuava a squillare. Quindi va bene, a domenica prossima, e ciao a tutti.